vanno, vengono, ogni tanto si fermano e quando si fermano sono nere come il corvo. Sembra che ti guardano con malocchio. Certe volte sono bianche e corrono e prendono la forma dell'airone o della pecora o di qualche altra bestia. Ma questo lo vedono meglio i bambini che giocano a correrle dietro per tanti metri. Certe volte ti avvisano con rumore prima di arrivare e la terra si trema e gli animali si stanno zitti. Certe volte ti avvisano con rumore. Vengono, vanno, ritornano e magari si fermano tanti giorni che non vedi più il sole e le stelle e ti sembra di non conoscere più il posto dove stai. Vanno, vengono, per una vera mille sono finte e si mettono lì, tra noi e il cielo, per lasciarci soltanto una voglia di pioggia. Radio Plaza es la hostia, ale con ello. Giù. Ma porco cane, ma tutte queste cose qui mi succedono. Ciao. Allora, hai visto la discarica, no? Sarebbe quella lì. Quella l'ex di Berlusconi, quella di Berlusconi. Quella col muro, no? Perfetto. Lunedì cominciamo a scaricare con esclusiva prima di tutte le gomme. 5.000 metri cubi di gomme. E dopo le votazioni, dopo 16 aprile, sì, ti porto l'autorizzazione a mano degli assimilabili e cominciamo il 17 a scaricare. Ho 40.000 tonnellate di assimilabili. Ho imballato, sfugge, non frega niente. Sì, sì, sì, sì. Però quella te lo tiri per te, eh? Sì, sì. Dopo sì, il 16, perché sennò vanno tutti i comunisti con bandiere rosse davanti. Domani l'hai visto il prezzo, eh? Sì, il prezzo è buono. E vai te col tuo camion, sì, fai quello che vuoi. E sono tutti d'accordo, hai visto tutti i nomi per conoscenza, sono tutti sindaci, che okay? È stato fatto un accordo per evitare casini con la popolazione, eh? Bisogna andare con i piedi di piombo. Allora, per il momento dobbiamo scaricare tutto plastiche, cioè gomme. Sì. Le suole dopo una settimana. I ritagli delle suole vanno bene adesso. Perché adesso una settimana io comincio a scaricare tutta l'altra roba per fare il fondo sul telo. E poi buttiamo tutto il resto, sì, per far vedere la popolazione che non si porta rifiuti, no? E dopo si parte con i rifiuti. Che tu cerca il pago, non è poi facile, con l'ingegnere il pago è poi facile. E ora ti faccio vedere pure l'agricoltura, io a mezz'aria. Il settore dell'agricoltura. Anche lei fa con uno scano, non mi ha dato io. Dopo i prodotti dopo. Dunque, il tutto è iniziato nel lontano 22 ottobre del 2003. Vennero da noi e ci dissero che le pecore nostre, cioè, erano positive per la diossina. Noi siamo usciti quasi con 12 picogrammi, le nostre pecore uscirono. Picogrammi di diossina presenti nel latte. E insomma, ci hanno messo sotto sequestro. Siamo ancora qui. Però tra non molto finirà sta storia perché le verranno ad abbattere. L'unica possibilità di utilizzare il nostro fango è quella della fornace, ma inteso come laterizi. Esattamente. Un'altra via di sbocco è quella del smaltimento diretto in agricoltura, quindi lui prende i nostri fanghi e li butta nei campi. Sì. Una terza opzione sono prendere i nostri fanghi e non metterli direttamente nei campi, ma trattarli, farne compost o qualsiasi cosa altro, esatto, vogliono. Noi lo scarichiamo sulla piazzuola per non far vedere la gente andare col camion in campagna, perché è sempre brutto far vedere, e col trattore andiamo noi in campagna. segue. Tutti i camion che arrivano, noi a casa nostra ce li impastiamo, vuoi con la segatura, arriva verde pubblico, arriva l'insalata, okay, noi ce la impastiamo e poi il trattore, sempre con dei rifiuti, poi il trattore va direttamente in campagna. No, sì, per amor del cielo, i miei dubbi non sono legati al come voi trattate i nostri rifiuti, è il sapere se avete la possibilità di farlo dal punto di vista legale, questo sì. È il discorso. Hai capito? È certificato che qua stiamo morendo. E cioè, ma nessuno ne parla, nessuno, è calato un silenzio su Qualiano, Giuliano e Villaric, perché è destinato i gruppi di pressione, il lodge massonico, la camorra, gli imprenditori, tutto quanto insieme, i politici hanno deciso di fare qui le cave, questa è la verità, è l'unica zona della Campania dove la gente ha perso l'orgoglio. L'ha perso l'orgoglio la gente, non è più padrone di terra, che è la verità, e allora hanno scaricato, che è la verità. Ce l'hanno pigliato, capite? Ce l'hanno tolto dalle vene, dal sangue, che lì pochi contadini rimangono chiusi, tra di loro, sanno a difendere un po' di terra, cioè, tu capisci, no? Qua stanno proprio come gli indiani e i sceriff, che è la verità. E hanno capito bene, questa zona l'hanno tenuta così per anni, perché doveva servire solo a fare le case e a fare le discariche, solo quello. Non viene un treno, non viene una metropolitana, non viene una scuola, non viene un cinema, non viene un teatro, non viene una palestra, non viene un parco pubblico, non viene un cazzo qua, perché così vogliono. È un pugno nello stomaco quando vede una discarica abusiva, è un pugno nello stomaco quando vede un contadino che ti chiede una mano, è un pugno nello stomaco quando vede la gente che dice fai qualcosa, ma che cosa? Manco più le parole ci stanno per descrivere in che condizioni si ha. Ci stanno facendo morire nel silenzio. E Radio Plaza, siamo in diretta in questo momento da Pomigliano e sul nostro blog collettivoutopia.noblogs.org. Radio Plaza, la radio estemporanea ultrafonica di piazza, che si spiazza spesso e va in giro per il mondo del web e quindi nel web per il mondo. Eccoci qua, irregolare, anticommerciale, inusuale, Radio Plaza. Circa 20 anni di voci, musica, letture, notizie, denunce, lazzi e svolazzi. Radio Plaza, fantaradio che impazza, strombazza e spiazza, e spesso qualcuno si incazza. Eccoci vuoi fa? Gli lasciamo fare, ogni volta qualcuno si incazza, bene, anzi meglio, molto meglio. Non serve l'indifferente, ma urge l'irriverente. Radio Plaza, indipendente. Futile quanto il sogno, come l'amore inutile. Radio Plaza. Siamo sulle note di Vodka Cola degli Area. E oggi siamo qua a Pomigliano per radiotrasmettervi in diretta radiofonica, ripeto, sul sito collettivoutopia.noblogs.org, questo incontro, convegno, assemblea, adunata, terra dei fuochi, non lasciamo che diventi la nostra tomba. Bonifiche subito, siamo all'ex distilleria di Pomigliano d'Arco, oggi è il 25 febbraio 2025, il volume è buono direi, molto buono, caldo, e che altro posso dire? Nient'altro, sì, allora l'audio che abbiamo ascoltato in questo momento, che qualcuno ha ascoltato, quelli che stanno in radio hanno ascoltato, che live è un po' complicato ascoltare, è vero, questo capita, soprattutto quando poi le posizioni sono differenti e divergono, quando divergono le posizioni ci si ascolta di meno. Sì, abbiamo ascoltato quindi un audiomontaggio dal film Beautiful Country di Esmeralda Calabria, Andrea D'Ambrosio e Peppe Ruggiero, storie di denuncia e testimonianze dal massacro di un territorio. Siamo in Italia, nella regione Campania, dove erano presenti nel 2007 1200 discariche abusive di rifiuti tossici. La nostra sigla che avete goduto sia live che in diretta su collettivoutopia.noblogs.org, Radio Plaza. E la sigla è Le Nuvole, era Le Nuvole di Fabrizio De André, musica e testo di Fabrizio De André e di Mauro Pagani, le voci sono di Lalla Pisano, e Maria Mereu dall'album Le Nuvole del 1990. Un po' di musica? No, vado avanti, perché oggi Radio Plaza è qui a Pomigliano. Vado? Posso andare? Continuo ad andare, non mi fermerò, non ci fermerete mai. Quindi, oggi più che mai è necessario resistere al declino su scala mondiale di qualsiasi valore, che sia sociale, ambientale, etico, solidale e purtroppo anche semplicemente umano. È fondamentale riuscire a dare continuità al sostegno a tutte quelle realtà che sul territorio di ogni latitudine provano a resistere, cercando di mantenere in vita quei valori in cui da sempre crediamo, quelli della dignità dell'essere umano, del rispetto per l'ambiente, della sopravvivenza del pianeta. In questa fase storica diventa importante qualsiasi idea, progetto, attività che possa essere portatrice di autonomia a qualsiasi livello. Dobbiamo provare almeno a resistere il più possibile, a contrastare pur sotto traccia la deriva generalizzata in cui stiamo vivendo. Questo era un estratto di un comunicato del collettivo Utopia, targato febbraio 2025, quindi freschissimo, brevissimo. Il collettivo Utopia, che in questo frangente storico è il promotore, organizzatore, autoproduttore di Radio Plaza. Radio Plaza, frequenze dinamitarde. La localizzazione degli impianti è stata lasciata a chi vinceva la gara d'appalto, perché l'impianto di Acerra non ha mica deciso il commissario di localizzarlo lì. Le discariche non ha mica deciso il commissario, l'ha deciso l'Impregilo. E quando il commissario nicchiava per approvare una delle localizzazioni delle discariche, partivano le telefonate, e sono agli atti, e dice: chiudiamo gli impianti, così gli facciamo un po' di casino e ci danno l'autorizzazione. Parecchie delle emergenze sono state create ad arte per avere alla svelta l'autorizzazione a, diciamo, costruire discariche nei posti dove l'Impregilo riteneva più opportuno andarli a costruire. Ma non è facile continuare così, perché la gente vede i disastri, sente la puzza e incomincia a reagire. In tanti si sono informati, dicono che non servono nuove buche, che bisognerebbe eliminare gli imballaggi, che ci vuole la raccolta differenziata porta a porta e che bisogna trattare a freddo i residui. Ma alla fine l'imbroglio è così grosso che intervengono i giudici. L'azienda è costretta dalla legge a rescindere il contratto, ma intanto continua a gestire l'affare. Cambiano i commissari, qualcuno è indagato e a ogni cambio spunta l'immondizia in strada fino alle finestre dei palazzi. L'importante è accumulare le balle finché non si aprano i forni. È monnezza che vale oro per via del CIP 6, quei famosi contributi. Le balle sono un capitale a terra, un profitto sicuro con cui si può ricontrattare il prestito, quello ottenuto dalle banche, rassicurarle sul ritorno del loro investimento, tant'è che questa monnezza viene addirittura quotata in borsa. E se guardiamo al denaro proveniente dagli inceneritori, la maggior parte del denaro è destinato a macchinari complicati e a pochissimi posti di lavoro. E quel denaro lascia la comunità. Nessuno di quei soldi rimarrà in una poltrona qui, non rimarrà nemmeno a Napoli, solo nelle tasche di alcuni individui. Gli abitanti che protestano rimangono soli e non sempre riescono a fermare le ruspe, anche perché adesso rischiano anni di galera. Continuano a lottare, anche perché si sono conosciuti, si scambiano notizie, si danno forza, ma sono un po' frastornati da tutto il silenzio che sentono intorno. Agli occhi del paese, questi cittadini vengono definiti egoisti, perché non vogliono le buche, incivili, perché non assecondano le decisioni delle istituzioni, camorristi, perché protestano. Possibile che siano in tanti a non capire la verità? In quella regione, nel paese, in quei palazzi dell'Unione Europea pieni di belle parole ma poveri di fatti. Possibile che non si capisca che questa storia non riguarda solo loro, che non è solamente una storia di monnezza. Radio Plaza. Hey, bentornati in diretta su collettivoutopia.noblogs.org. Questa è una puntata speciale di Radio Plaza, puntata speciale perché vi radiodiffonderemo tra pochi secondi, direi, questo incontro promosso da Città Aperta, associazione di Pomigliano, e da altre sigle che non sto qui a elencare, e vari personaggi. Si parlerà di terra di fuoco, terra dei fuochi, e di probabilmente di monnezza e di emergenza rifiuti e gestione criminale del ciclo dei rifiuti, che è avvenuto qua una ventina di anni fa. Qualcuno se l'è dimenticato completamente, noi no, perché c'eravamo, ancora non c'era Radio Plaza, ma eravamo pronti. Quelle voci che avete sentito sono un estratto dal film Una montagna di balle del 2009 di Nicola Angrisano e di Insu TV. Dal 2003 al 2009 un gruppo di videomakers ha documentato la cosiddetta emergenza rifiuti Campania per svelarne gli ingranaggi, individuare responsabilità e attori di 15 anni di gestione straordinaria. Quindi da questo momento in poi io mi spengo completamente e passiamo la parola al convegno Terra dei Fuochi. Bonifiche subito, non lasciamo che questo posto diventi la nostra tomba. Devo passare la palla a qualcuno? Sì, a Tommaso Sodano, che è il rappresentante dell'associazione Città Aperta, che sta al centro del tavolo, non a caso, e quindi buon ascolto del convegno Terra dei Fuochi. Non sarà la nostra tomba questo brutto posto. Arrivederci, grazie. Grazie, buonasera a tutti e a tutti, e grazie per essere qui numerosi nonostante una giornata veramente infame per la pioggia che ci sta accompagnando. Sono molto dispiaciuto e mortificato perché c'è la Francesca Ghidini, giornalista Rai, che sta aspettando una nostra compagni che è andata a prenderle, purtroppo per incidente tangenziale ancora non parte dal Vomero, insomma non so se riuscirà a raggiungerci, e mi dispiace molto perché era un'altra testimonianza importante di chi ha seguito in tutti questi lunghi anni le vicende che hanno riguardato il nostro territorio e la difesa del nostro territorio, che è stato portato avanti in modo stoico soprattutto dai cittadini, dai comitati, dai movimenti, da quanti hanno prodotto una vera e propria resistenza rispetto a quello che stava avvenendo sul nostro territorio. E consentitemi alcuni ringraziamenti così per non dimenticarli poi dopo, perché è doveroso, perché tra i presenti c'è il sindaco di Acerra, dottor Del Rico, cioè l'assessore, gli assessori del comune di Pomigliano, l'assessore all'ambiente, l'assessore Toscano e l'assessore Caprioli. E con questi sindaci e con tutti i sindaci del territorio è attivo un tavolo per l'ambiente che sta provando a mettere in campo delle iniziative nel settore della nel nostro territorio. Ecco, lo spento io, no? Non sapevo che c'è. E devo stare fermo con le mani, mi dico. E dicevo, è questo tavolo per l'ambiente che è attivo sulla questione degli sforamenti delle polveri sottili del nostro territorio che stanno creando dei problemi serissimi per la nostra salute. E in verità noi stavamo lavorando a questo convegno nel mese di gennaio proprio sul tema della qualità dell'aria e delle iniziative da mettere in campo su questo comprensorio che, per come è conformato, essendo noi un po' infossati tra Volla fino a Nola, c'è una particolare stagnazione delle polveri, pur non avendo, pur non essendo insomma, il nostro territorio particolarmente, anzi avendo subito un processo di deindustrializzazione, quindi riducono le attività produttive, si sono ridotte il numero di occupati, si riducono le produzioni e comunque costantemente ogni anno aumentano il numero di comuni, di giornate annue che assistiamo a questi sforamenti delle polveri sottili PM10 e PM5, le uniche che misurano, poi gli esperti ci diranno che quelle più piccole sono ancora più pericolose ma non vengono misurate. Molto spesso non abbiamo neanche i dati ufficiali dell'ARPAC rispetto a quelle che sono non solo gli sforamenti massimi che vanno misurati, ma anche quelli che sono gli sforamenti, la media degli sforamenti, che anch'essa nella molteplicità e nella sommatoria di elementi inquinanti che si sommano appunto a quello che andiamo a inalare, peggiora la nostra condizione. Ma dicevo, mentre stavamo preparando questo convegno su questo tema, il 30 di gennaio è uscita la sentenza della Corte Europea per i Diritti Umani che finalmente, dopo oltre 30 anni di battaglie, dà per una prima risposta, come dire, incoraggiante dal punto di vista del riconoscimento della giustezza delle lotte che venivano fatte. Io ho ricordo, vedo qui in sala tanti amici, compagni dei movimenti, che soprattutto i compagni di Acerra, Giovanni De Laurentiis, tanti compagni i Medici per l'Ambiente, che ringrazio per la presenza, c'è Gennaro Esposito, il Presidente, che già agli inizi dell'anno 2000 insieme a noi portavano avanti una battaglia contro la costruzione dell'inceneritore. Ora vorrei dire, visto che è tornata anche la discussione in queste settimane su questo tema, quando noi ci opponemmo alla costruzione dell'inceneritore ci dicevano: ma che c'entra l'inceneritore con la Terra dei Fuochi? La Terra dei Fuochi è un, come dire, è stata l'opera della criminalità che ha interrato i rifiuti. E noi provavamo con molte difficoltà a dire: ma guardate, proprio perché questa terra è una terra che ha già pagato un prezzo altissimo, indipendentemente dalle valutazioni sul corretto smaltimento dei rifiuti o sulla corretta gestione dei rifiuti, che è più giusto parlare in questi termini, se vogliamo ragionare in termini anche di un'economia circolare, della possibilità di poter ridurre i rifiuti e gestirli in modo diverso, recuperarne la materia e non provare fintamente a recuperarne energia, dicevamo: qui, indipendentemente da come la si pensi, sì o no all'inceneritore, comunque non andrebbe realizzato in questo territorio, che è un territorio che ha pagato un prezzo altissimo e che ha bisogno di, come dire, di una ricompensa ambientale. E in quegli anni c'erano delle ricompense. Io voglio ricordarle, lo dico ai ragazzi che finalmente sono attivi su questi territori, ma alcuni di loro forse non erano neanche nati. E in quegli anni, se ne ricorda bene il Vescovo di Acerra, Don Giovanni Rinaldi, Acerra avrebbe dovuto avere il polo pediatrico, una sorta di ricompensa ambientale, per dire: siccome i bambini qui sono quelli che pagano un prezzo altissimo, realizziamo almeno il polo pediatrico. Scomparso dall'agenda politica di tutte le amministrazioni regionali che si sono succedute dagli anni, fino agli anni 90 fino ad oggi, non se ne parla più. è stato spostato in un'altra, e insieme a quella si parlava di bonifiche. Bene, io voglio dire che quando noi abbiamo fatto quella battaglia, e poi che è stata repressa violentemente nell'agosto del 2004, e oggi noi dopo 30 anni, dopo 25 anni, possiamo dire che noi fummo sconfitti, fummo picchiati, fummo violentati. Perché? Ma perché noi non potevamo vincere quella battaglia. Perché vincere quella battaglia in quel momento significava svoltare completamente rispetto a quelli che erano gli interessi in campo dei grandi gruppi industriali di questo paese, dei grandi gruppi imprenditoriali, delle grandi alleanze che c'erano tra impresa, camorra e politica, che aveva gestito il ciclo dei rifiuti in quegli anni. E noi abbiamo comunque continuato, e devo dire che questa sentenza oggi è importante, perché dal mio punto di vista la cosa più importante è che riconosce il diritto alla resistenza dei cittadini, dà finalmente ragione a quei cittadini che testardamente hanno continuato in tutti questi anni a fare denunce, a fare manifestazioni e a portare avanti l'esposto alla Corte per i diritti umani. Avere questo riconoscimento ci dice, e qui dovremmo avere noi una grande capacità, ed è il motivo per cui abbiamo voluto fortemente, insieme all'Associazione Oltre, che è qui rappresentata da Francesca Gargiulo, e insieme alla CGL, l'Ospice CGL di Pomigliano, che ci ha dato una grande mano, abbiamo voluto questo convegno non per fare la passerella o per raccontare il Terra dei Fuochi. Poi gli esperti ci diranno, e qui insomma tra gli esperti ne abbiamo di assoluto valore, e tra questi abbiamo il professore Giordano, che è stato tra i primi, e anche lui è stato come dire, oggetto di attacchi, di tentativi di sminuirne il lavoro. E la scienza, la Chiesa, che spesso quasi sempre è stata al nostro fianco, prima con Don Giovanni, adesso con il Vescovo di Donna di Acerra, che continua ad avere una presenza attiva a fianco delle comunità territoriali, e con la scienza, con la Chiesa, insieme ai cittadini, si è creato questa forte massa critica che ha resistito. Oggi noi dovremmo avere la capacità, e qui c'è bisogno di fare un salto di qualità, superando quelle che sono le frammentazioni e le divisioni che spesso hanno reso più debole i movimenti nel nostro paese. Qui è il momento in cui i movimenti devono fare rete, devono tornare insieme, uniti, per dire: ora, nei 2 anni che la Comunità Europea ha dato allo Stato italiano per intervenire, vogliamo che si passi dalle parole ai fatti e che la bonifica sia realizzata davvero con il supporto e il controllo da parte dei cittadini. Se noi non facciamo questo in 2 anni sembrano tanti, ma 2 anni, io ho fatto l'amministratore per tanti anni, vi posso dire che 2 anni sono niente, perché i tempi per fare le gare, i tempi per i ricorsi alle gare, ci vogliono mesi e anni, e soprattutto la risposta non può essere quella la semplice nome di un commissario. Va bene, noi siamo sempre aperti ad ascoltare tutti. Hanno nominato un altro generale, io non ho molta, insomma, in genere di generali ne abbiamo visti tanti negli anni, e ne abbiamo visti tanti di commissari. Prima, ascoltando dalla radio, c'erano alcune testimonianze. Noi abbiamo avuto tra i peggiori commissari, abbiamo avuto il mitico Bertolaso, insomma, se qualcuno si va a leggere le intercettazioni che fanno quelle del commissariato rispetto alle manipolazioni dei codici che chiedevano di fare sulle analisi di laboratorio per poter smaltire anche nelle cave del Vesuvio all'epoca, e prendono in giro un cretino come me che mi ero permesso di fare delle osservazioni, e ridono sul mio nome quando parlano di come manipolare i codici. Beh, insomma, io i commissari li guardo sempre con molta, molta, molta preoccupazione, perché di gestione commissariale, dal terremoto ai rifiuti, non hanno, o ai commissari per la sanità, non credo che hanno portato i risultati, e i dati sono sotto gli occhi di tutti, insomma, basta vedere che cosa hanno prodotto i commissari della sanità nel sud Italia, insomma, con i problemi che ci ritroviamo. Bene, io penso che invece noi dobbiamo, nominato il commissario, bisognerebbe capire se ci sono i soldi, se gli hanno dato anche i soldi, mi sembra di no, a leggere al momento soldi non sono stati stanziati, ma il commissario deve sapere che oltre che con la regione, le città metropolitane, con i comuni, deve parlare anche con i comitati di cittadini, che sono sono stati protagonisti dell'esposto e devono essere protagonisti della fase di realizzazione delle bonifiche. Questo, diciamo, mi auguro che, insomma, spero di essere tutti brevi per dare la possibilità anche di ascoltare alcuni di voi. Io mi auguro veramente che le esperienze di movimento facciano un salto di qualità e acquisiscano quella maturità per essere soggetti protagonisti del processo di bonifica. Questa è l'ultima occasione che noi abbiamo. Noi purtroppo piangeremo ancora morti per anni, perché ci spiegheranno gli esperti purtroppo gli effetti dell'inquinamento sulle matrici ambientali, soprattutto sulla terra, sul suolo e sull'acqua e sull'aria, avranno delle ripercussioni, avendo contaminato in molte realtà anche i cicli produttivi, il ciclo biologico della produzione con cui noi siamo in contatto, avremo ancora purtroppo delle conseguenze. Però abbiamo il dovere di provarci per costruire un territorio migliore, lasciare un territorio migliore a chi viene dopo di noi. Invitando un caro amico a questa iniziativa, mi dice: no, basta, io non ce la faccio più, non vengo a queste iniziative, non ce la faccio più. Io poi sono uno che in genere la polemica mi appassiona, nel senso che dico: ma fammi capire, che significa? Tu non vieni perché? Cioè, tu non partecipi più, e che cosa abbiamo risolto? Io penso che noi abbiamo il dovere di provare fino in fondo a resistere e a lasciare accesa sempre una prospettiva. Io penso che mai come in questo momento invece ci sono tutte le condizioni per poter far rinascere il movimento ambientalista in questo territorio. E la vostra risposta stasera, nonostante la pioggia, devo dirvi che mi conforta, e mi conforta molto, e credo che conforta tutti coloro che hanno a cuore veramente il bene del nostro territorio. Io l'ho fatta forse anche lunga e mi ero ripromesso di essere breve, e vorrei dare la parola a Francesca Gargiulo e Damiano Mendoza, che era tra dell'associazione Oltre, che avrebbe dovuto intervenire, e anche bloccato dalle influenze, ma soprattutto è senza voce, quindi non poteva parlare. E noi siamo contenti che invece di Damiano c'è Francesca, per l'associazione Oltre, che hanno fatto un lavoro in queste settimane di preparazione per inquadrare esattamente i due temi che vogliamo trattare insieme questa sera. Francesca, te. Buonasera a tutte e tutti, io mi chiamo Francesca Gargiulo e faccio parte dell'associazione Oltre, un'associazione di promozione sociale che oggi, grazie alla realtà di Città Aperta, ha avuto l'opportunità di intervenire chiaramente a questo dibattito molto importante e che ci coinvolge tutti in prima persona. La nostra associazione è un'associazione che si occupa di tematiche sociali, quindi di analisi del territorio e di analisi sul territorio, rivolte principalmente alla fascia giovanile, dunque ai giovani. Noi abbiamo realizzato nello scorso anno dei progetti rivolti ai giovani, delle assemblee, e abbiamo analizzato queste tematiche attraverso non solo assemblee, quindi momenti insomma di incontro fisico tra di noi, ma anche soprattutto attraverso quello che per i giovani è il principale mezzo di comunicazione, e cioè i social. Infatti è proprio grazie ai social che noi abbiamo, diciamo, sul nostro profilo Instagram abbiamo avuto l'opportunità di realizzare delle infografiche, grazie chiaramente alla lettura e all'informazione mediante dati concreti, che ci hanno permesso quindi di formarci un'idea riguardo una realtà che riguarda tutti e che ci coinvolge in prima persona innanzitutto in quanto cittadini campani. Una realtà che ci riguarda anche in quanto cittadini pomiglianesi, ma soprattutto in quanto giovani che si apprestano a vivere un futuro e ad agire in un futuro che, a causa di determinate condizioni ambientali e politiche, appare essere quanto incerto su molti punti di vista, e proprio per questo dobbiamo impegnarci a renderlo migliore attraverso l'informazione, attraverso soprattutto la sensibilizzazione e l'azione. Chiaramente dagli anni 80 la Campania è stata teatro di un business criminale basato sullo smaltimento illegale di rifiuti industriali provenienti da tutta Italia, e chiaramente la lettura di dati è stata per noi fondamentale per effettuare dunque una riflessione. Nel 2013 basti pensare che il business sommerso di rifiuti pericolosi arrivava a ben 3 miliardi di euro, e ovviamente la principale conseguenza di questo business illegale è stata chiaramente un danno totale, prima del territorio che ci circonda, quindi dell'ambiente, dell'inquinamento, in secondo luogo soprattutto della salute dei cittadini che vivono chiaramente in questi territori. Secondo i monitoraggi dell'ARPAC, infatti risalenti al 2024, i livelli di inquinamento atmosferico superano di gran lunga i limiti di legge. La presenza di diossine nell'aria è infatti un chiaro indicatore della continua combustione di rifiuti tossici, come dimostrato tra l'altro anche da studi recenti condotti dall'Università di Napoli Federico II nel 2024, che hanno dimostrato e hanno rilevato concentrazioni fino a 50 volte superiori ai limiti di legge, quindi sicuramente dati notevoli da tenere in considerazione. Inoltre, diretta conseguenza è anche il danno dell'approvvigionamento idrico delle città, in quanto le acque sotterranee sono contaminate da metalli pesanti, da solventi, da rifiuti industriali che chiaramente vanno a minare la rete idrica delle comunità. E a Pomigliano d'Arco in particolare noi abbiamo sfiorato il limite di PM10 per ben 45 giorni. Oltre alle conseguenze ambientali e quindi all'inquinamento ambientale del territorio, chiaramente ci sono conseguenze, come dicevo prima, tragiche anche per la vita degli abitanti di questi territori, per la loro salute. L'Istituto Superiore di Sanità infatti ha rilevato un aumento del 15% dell'incidenza tumorale nella Terra dei Fuochi rispetto alla media nazionale, con picchi preoccupanti soprattutto nelle città di Pomigliano d'Arco, di Acerra e di Giugliano. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo inoltre ha sottolineato come purtroppo l'Italia non abbia adottato misure sufficientemente efficaci e tempestive a causa di diverse problematiche, quali innanzitutto la lentezza delle procedure, la frammentazione delle competenze, cioè la mancanza di un coordinamento omogeneo ed efficace, e la mancanza di una strategia a lungo termine che consenta chiaramente la bonifica del territorio, e l'insufficienza delle risorse economiche rispetto all'entità del problema. Quindi tutte questioni che a nostro parere le istituzioni dovrebbero assolutamente tenere in considerazione. Proprio per questo, per concludere, come membro di un'associazione impegnata proprio in questioni e in tematiche sociali, noi promettiamo di portare avanti questa battaglia con i mezzi che abbiamo a disposizione, e cioè richiedendo assolutamente una bonifica immediata, ma soprattutto chiedendo alle istituzioni di provvedere ad un futuro che riguarda tutte e tutti, sui quali chiaramente dobbiamo essere informati e dobbiamo essere pronti ad impegnarci per migliorarlo. Vi ringrazio. Bene, io vi chiedo veramente un applauso a Francesca Ghidini che ci ha raggiunto adesso. Sono veramente mortificato perché è stato un ritardo ingiustificabile. Allora passo io un'altra parola e poi lascio a te, diciamo, l'intervista. Io e l'associazione Oltre. Adesso c'è Miriam Coroncio, poi abbiamo il vescovo e i due prof. Quindi ok, qui la parte più calda. In sala sono presenti anche il professore Cioffi della chirurgia oncologica dell'Ospedale del Mare, che ringrazio per la presenza, e dottor Bernardo Pirollo, presidente del centro di abitazione di Cassino, che sono venuti insieme col professor Giordano. E adesso lascio la parola a Miriam Coroncio, che è un'attivista storica, sarda come si capisce dal nome, ma che ha rumena. Che ha sposato il nostro territorio e che è la migliore risposta a quanti credono o affermano che parlare di terra dei fuochi mette in difficoltà, mette in ginocchio l'agricoltura. Lei fa agricoltura insieme al mitico Vincenzo Marciano, che è presente in sala, a dimostrazione di come è possibile fare agricoltura di qualità, chiaramente tra mille sacrifici, anche in una terra come la nostra, non rinunciando a denunciare quello che è accaduto e quello che continua ancora ad accadere sul nostro territorio. Miriam Corongio. Allora, innanzitutto grazie a Tommaso, a Città Aperta per l'invito, perché io penso che sia assolutamente necessario prendere parola quando la Corte Europea dei Diritti Umani si pronuncia su una vicenda come Terra dei Fuochi. A me ha fatto immediatamente, come dire, mi ha colpito moltissimo, no? Eppure sono processi iniziati più di 10 anni fa e ci vado un attimo dentro questo processo prima di parlare di agricoltura, un secondo, perché il livello di disumanizzazione a cui tutti e tutte noi siamo stati sottoposti quasi non ha eguali. Perché siamo stati trattati, lo dico da donna, da attivista e da contadina, come se non fossimo esseri umani, come se non avessimo diritto a vivere, come se non avessimo diritto a morire serenamente, come se non avessimo diritto a mangiare ciò che è buono, sano e giusto, come se non avessimo diritto a crescere i nostri figli in questa terra. Io credo che questo sia il significato più grande di questo dispositivo che porta il nome di Alessandro Cannavacciuolo come primo richiedente. Porta il nome di Acerra, porta il nome di Valentina Centonze, che è l'avvocata che ha seguito tutta la procedura insieme a un pool di altri avvocati che si sono interessati gratuitamente sempre di tutte le nostre vicende, e porta il nome e la firma con il sangue di tutti e tutte noi. Ha ragione Tommaso quando dice che questo è il momento in cui ci si deve incontrare, che questo è il momento in cui si deve dare una spinta. Io vorrei dire una cosa che forse passa un po' inosservata, ma la Terra dei Fuochi, per come l'ho vissuta io, mani nella terra e mani nella politica dal basso, non è solo un brutto posto o un posto dove si vive male. La Terra dei Fuochi è un grandissimo laboratorio politico di pensiero e di coraggio. All'interno dei gruppi organizzati che hanno sempre lavorato a rischio della vita, perché le minacce che tra Alessandro e molti altri hanno subito semplicemente perché volevano vivere e volevano denunciare che non si poteva vivere in certe condizioni, veramente a rischio della vita, a rischio della famiglia, perché abbiamo impiegato veramente tutta la nostra vita per impegnarci sul territorio. In questi contesti abbiamo lavorato a moltissime forme di proposte che non erano soltanto politiche in quanto tali. Io sono estremamente contenta di essere seduta qui perché ci siamo visti poco, ma abbiamo interagito molto con Antonio Giordano, con il professor Giordano, che parlerà dopo, perché tra i tanti progetti che abbiamo elaborato e tirato fuori c'è stato il progetto Veritas, che è un progetto di coscienza. Medici, soprattutto del calibro di Antonio Giordano, i medici per l'ambiente, Luigi Costanzo, attivisti e attiviste di tutte le associazioni, ci siamo adoperati per anni per un progetto scientifico nato dal basso, che si fa forte di una scienza post-normale in cui è chiaro che il problema ambientale non può essere gestito attraverso la guerra dei dati. Ci hanno costretto alla guerra dei dati, ma era evidente che qui ci fosse un problema, e la Corte Europea per i Diritti Umani lo sottolinea. C'erano delle evidenze tali per cui il famoso principio di precauzione che abbiamo invocato per decenni andava rispettato. In questo processo, che ci ha visto legati su fronti molto diversi, dagli ospedali ai teatri, alla terra, appunto ai progetti scientifici, Abbiamo avuto dalla nostra parte veramente tantissime persone e sono anche contenta di essere qua con Francesca Ghidini, che è una delle voci che ha meglio raccontato e che c'è stata sempre tanto vicino quelle che sono le nostre vicissitudini. È una... No, sì, è meritato. Perché quando si parla di Terra dei Fuochi si parla di collettività, si parla di vita, si parla di persone che fanno lavori tutti diversi. Io quando ho avuto la notizia di questa sentenza mi sono fatta mandare da Valentina Centonze il testo integrale. La prima cosa che mi è venuta in mente è stata che nel 2017-2018, poi magari Francesca mi corregge se dico cose insomma non precisissime, però ci fu detta una cosa che è stata agghiacciante. L'allora dottor Limone, che era il direttore dell'Istituto Zooprofilattico, disse che la Terra dei Fuochi era una fake news. Cosa? Lo è ancora, che bella notizia. Disse che la Terra dei Fuochi era una fake news. Ovviamente, ma erano tutti insieme sullo stesso fronte. Sentirsi dire, mentre i nostri figli morivano, che quello che stavamo dicendo era una sciocchezza, che non c'era un problema vero, no? E lo si faceva soprattutto da una sede specifica, che è quella dell'agricoltura, che è quella della mia sede, è il mio lavoro specifico, eccetera, è una cosa che ci ha fatto particolarmente male. Oggi la Corte Europea dice esattamente il contrario, ma lo dicono, lo dice il florileggio di studi scientifici, no? Perché Francesca prima ci ha detto qualcosa, gli studi sono veramente tantissimi, uno degli ultimi è quello dell'Istituto Superiore di Sanità, in accordo con la Procura di Napoli Nord, che nel 2020 pubblicano, dopo 3 anni di rilievi, uno studio sui 38 comuni della Procura di Napoli Nord che ci consegna un quadro veramente allarmante. Ora, per arrivare, e per non essere troppo lunga, a quella che è l'agricoltura, allora è chiaro, io da contadina e avendo un'esperienza di agricoltura di comunità, in cui io mi rivolgo alle persone che sono accolte nella nostra terra in maniera estremamente familiare, no? Sono accolti perché possano prendere parte a quello che è il vero significato dell'agroecologia, perché noi lavoriamo in agroecologia, mi sono trovata spesso a dare spiegazioni e rassicurazioni su quello che accadeva. L'ho fatto da attivista che prendeva parte alle rivolte, perché tali sono state, magari misurate, magari ragionate, a volte meno, ma se nessuno ci sente bisogna alzare la voce, non c'è un'altra strada, bisogna alzare la voce. E quando ho parlato di cibo e di agricoltura, di agroecologia, anche in seno ai vari movimenti, a me è stata sempre chiara una cosa. Indipendentemente dal fatto, perché le analisi che sono state svolte finora, sia dalla Regione Campania che dalle compagnie private che venivano ovviamente a comprare per l'import-export i prodotti in Campania, sia altre analisi indipendenti che sono state svolte, di tossicità non si è mai parlato a proposito del cibo. Io però dico una cosa, a parte il fatto che mi sembra, dopo quello che ha detto il CEDU, un po' tutto da rifare, no? Nel senso che qui abbiamo bisogno di una serietà tutta diversa rispetto a quella che è stata adoperata finora. Io però dico una cosa. Antonio Giordano ha sempre parlato di DNA bucato, no? L'ha ripetuto, penso, in questi giorni, Antonio, nelle varie interviste che ti sono state fatte, e che quindi di danni permanenti al DNA umano. Conoscendo le piante, pur non essendo una neurobiologa vegetale, ma studiando sempre, perché si sta sul territorio studiando, si sta sul territorio elaborando insieme agli altri, incontrandosi, si sta sul territorio combattendo, vi posso dire una cosa. Allora, se così è, le piante in ogni caso subiscono un danno. Ci sono studi recentissimi, ma questo a me era chiaro già all'epoca, insomma, ci sono studi molto recenti pubblicati l'estate del 2024 e svolti dall'Università Cattolica di Piacenza, soprattutto sulla lattuga, che è una coltura a ciclo breve, quindi interessante dal punto di vista delle analisi scientifiche, in relazione a micro e nanoplastiche. Ovviamente consideriamo che Terra dei Fuochi è ricettacolo di fonti di inquinamento tutte diverse, e basta andare, io una volta sono andata a Caivano da un agricoltore che non riusciva a entrare con il trattore nel proprio fondo perché i rifiuti erano talmente alti proprio come montagne, e là ho visto uno spaccato chiaro di quello che è Terra dei Fuochi, l'impossibile, dalle scocche dei motori fuori bordo fino ai flaconi di pesticidi, ai giocattoli buttati per strada, eccetera. Questo studio ci dice, a proposito delle nanoplastiche, che quando si trovano a interferire con la rizosfera, significa con le radici, si verificano nella lattuga degli effetti preoccupanti, e cioè che c'è una diminuzione dei peli radicali, che sono quelli che in realtà danno la possibilità alle radici di interagire con tutto l'ecosistema che c'è all'interno della terra, c'è una riduzione della produttività, quindi proprio foglie più piccole e meno grandi, e soprattutto, e questo siamo agli inizi degli studi, e il professor Lucini mandava un segnale d'allarme, ci sono addirittura problemi nella fotosintesi. La fotosintesi, questa sconosciuta, è la vita del pianeta. Se noi continuiamo così, e questo lo dice anche l'Istituto Superiore di Sanità nello studio che ho citato prima, se le fonti di inquinamento non cesseranno, se le bonifiche non ci saranno, se non ci mettiamo in testa che la responsabilità c'è e apporta nome e cognome, se non ci rendiamo conto che siamo tutti coinvolti in questa storia, non solo ci dobbiamo preoccupare di cosa mangeremo noi, ma ci dobbiamo preoccupare di cosa mangerà il mondo tra non moltissimi anni. Allora, io chiudo qua invitandovi seriamente a prendere in considerazione che i contadini hanno un ruolo importante, lo dico ai miei colleghi se ce n'è qualcuno, noi siamo responsabili del lavoro che facciamo, siamo responsabili nei confronti delle persone che vengono a comprare le verdure da noi, siamo responsabili nei confronti dei nostri figli, ma siamo soprattutto responsabili nei confronti di questa terra, che è una cosa viva, come vivo il cibo che mangiamo. Grazie. Si sente? Ok. Allora, ma io penso che molti di voi siano venuti qui anche appunto per chiedersi se la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha sancito che nella Terra dei Fuochi si è compromesso, è stato messo a rischio il diritto alla vita. Che cosa accade? Cioè, come dall'inquinamento di varia natura, perché parliamo di sostanze, di tipologie diverse di sostanze, come arrivano all'uomo, visto che in realtà l'agricoltura, io non so perché, ma la terra è tanto forte, e ricordo sempre che Federico Bisceglia, che era un magistrato bravissimo, morto giovane, che lavorava proprio sulle problematiche delle terre dei fuochi, un giorno mi disse: ho fatto analizzare da più laboratori le fragole del campo accanto alla Resit di Giuliano, che è una delle bombe ecologiche, e disse: quelle fragole e quella, non so come, non so perché, sono pulite. La terra ha resistito forse più dell'uomo, visto che l'uomo invece si è ammalato e continua ad ammalarsi, non è finito nulla, il ciclo continua, gli effetti continuano. Mi ha detto una frase una mamma che ha perso la figlia e che adesso fa la volontaria negli ospedali pediatrici, nei reparti oncologici, ha detto: si passa dalla culla o dalla pancia, ma alla chemioterapia. Io l'ho trovata una frase molto forte, una frase che deve far riflettere soprattutto chi ha negato. E allora chiedo ad Antonio Giordano, medico, Philadelphia University, come avviene questo passaggio, perché in fondo la terra è più in grado di resistere all'inquinamento e invece noi ci ammaliamo, si ammalano le persone più giovani, i bambini. Che cosa sta succedendo? Bene, allora buonasera a tutti. La domanda è un po' più complessa. Noi abbiamo chiaramente un gravissimo problema ambientale. Uno studio che è iniziato più di 50 anni fa. I primi studi che io poi ho ripreso dopo che sono andato in America anche, li fece proprio mio padre negli anni 60, con la prima mappa della nocività in Campania, dove dimostrò nelle zone industriali di Napoli Nord, poi sul Sarno con i primi lavori, che esisteva un aumento di patologie gravissime in quelle zone. E io ricordo che iniziò a lavorare anche su quello che era l'impatto di quel insulto ambientale, su quello che era la parte legata alla terra, al mare per esempio, perché allora sul Napoli Nord, sul resto anche poi si sversava parecchio, quindi... Bene, lui portò un biologo marino a Napoli e iniziò a fare i primi lavori per esempio sul riccio di mare, dove vide che le sostanze cancerogene come il cloruro di vinile o benzopirene, metalli pesanti, che erano presenti già in quantità enorme bene, nelle nostre acque, nella nostra terra e negli uomini, creava un cambiamento di quello che erano le caratteristiche del materiale genetico. Ora, tornando giusto sulla parte tecnica, quando io poi ho ripreso il lavoro in America anche per una questione, perché ci furono anche allora, fu perseguitato, ci furono ostacoli anche a quel lavoro scientifico, ma nacque in quei periodi in Italia il primo anche programma di cancerogenesi ambientale, cioè l'impatto delle sostanze cancerogene e come queste sostanze cancerogene potessero trasformare una cellula normale e farla diventare una cellula maligna. Bene, io ho ripreso il lavoro dall'America cercando di comprendere nel fine anni 90 in realtà come quello che poteva succedere o che stava succedendo sulle popolazioni. E credetemi, io non riuscivo a raccogliere un dato dai registri tumori o dal Ministero della Sanità, dalle ASL, dagli ospedali, e il tutto nacque quando io ebbi un finanziamento del Dipartimento della Difesa americano e ebbi l'incarico di monitorare quella che era la salute dei soldati, delle famiglie, coordinare questo programma nel mondo, e io chiesi al generale Robinson di avere questo finanziamento e di iniziare per esempio su quello che era la regione Campania. Quello fu il cavallo di Troia per riuscire ad avere i dati clinici, e adesso è storia, adesso è realtà, e dei primi dati clinici portarono non solo gli americani a capire falde acquifere contaminate, tombate di amianto, presenza di sostanze tossiche. Pensate, se io vi cito diossina, cloro di vinile, benzopirene, amianto, metalli pesanti, in singolo queste sostanze, ma non un lavoro fatto da me, riconosciuto a livello scientifico e a livello mondiale, tante queste sostanze fanno parte tra le 800 sostanze killer, cioè messe a contatto con qualunque forma di vita le trasforma. Che significa forma di vita? La forma di vita significa qualsiasi forma di DNA. Se noi abbiamo un DNA, giusto? Quindi la forma di vita è l'uomo, la forma di vita è la pianta, la forma di vita è l'animale. Cioè, tutte questa presenza di questo materiale genetico, va bene, rappresenta quella che è la base, diciamo, della nostra vita. E quel lavoro che era stato fatto negli anni precedenti, fine anni, metà 60, appunto, e vi ho citato mio padre in quel lavoro, tanto che si creò contezza anche sull'amianto. La prima legge di amianto sull'amianto si basò, e il Tommaso Sodano lo sa perché in quegli anni era uno delle persone più attive in supporto a quella piccola autonomia scientifica che esisteva, insieme a Franco Paranta, che ricordiamo. Quindi loro poi combattettero e fecero approvare anche che solo una fibra di amianto avrebbe potuto danneggiare qualsiasi forma di vita, qualsiasi forma di vita, quindi uomo, animale, pianta. Questo sistema uomo, questo uomo, animale, pianta si chiama One Health, va bene? One Health significa che rappresenta la salute del mondo che ci circonda. E ricordatevi che non esiste nessuna patologia rara o comune, dipende dal lato del mondo in cui noi viviamo, va bene? Una patologia rara qui in questo paese può essere comune ad Acerra o rara a Milano o comune a... Quindi significa che l'esposizione all'ambiente ti dà quel imprinting, quelle caratteristiche nel bene e nel male della, dell'insieme dei geni che compongono questi organismi. Allora, qual è la, la verità? La verità è che purtroppo noi viviamo in un ambiente dove la presenza di queste sostanze tossiche in singolo ed insieme, quindi pensate se in singolo vengono considerate dei killer, pensate insieme che cocktail letale può essere. E noi che sviluppiamo una cellula tumorale al secondo, il nostro organismo è fantastico, noi riusciamo con questo meccanismo a riparare il danno del DNA, cioè subiamo un insulto e il nostro DNA ripara, subiamo un secondo insulto e il nostro DNA ripara. E riusciamo ad avere 6, 7, 8 danni genetici prima che il nostro organismo non regge più, non ripara più il DNA e c'è lo sviluppo di una patologia che non è solo tumorale. Il meccanismo di riparazione del DNA è un meccanismo di base, è un meccanismo fondamentale nel nostro organismo. Noi siamo andati in profondità anche a livello di quello che è il materiale genetico. Ed è chiaro che nel lavoro di Veritas, che è un lavoro che è voluto dai cittadini, finanziato però maggiormente dal sacrificio dei cittadini, ma il grande finanziamento è stato dell'organizzazione americana, la Sbarro Research Organization. Anche questo è un paradosso, perché pensate che lo stesso lavoro in larga scala lo doveva fare lo zooprofilattico. Pensate, uno zooprofilattico che coordina una sperimentazione, un biomonitoraggio su una popolazione, uno zooprofilattico, va bene? Per vedere l'aumento di patologie, un dato che non è mai uscito. Quindi noi, con i cittadini che hanno fatto dei sacrifici, si è creato questo programma di ricerca. Questo programma di ricerca che ha portato in quelle zone a dimostrare che nei fluidi, quindi nel materiale biologico della popolazione, esistevano elevati livelli di metalli pesanti. E ripeto, se voi prendete una forma di vita e la mettete in contatto con qualcuna di queste sostanze, la trasforma, la cambia, la danneggia, cioè non è più la stessa. Poi è chiaro che in un organismo più complesso ci sono le difese, il nostro organismo reagisce, non è che tu ti fumi una sigaretta e sviluppi il tumore, devi creare una serie di danni e noi abbiamo questa... Poi, e questo in anteprima, oltre a Veritas, noi abbiamo continuato, finanziato questo lavoro e siamo andati oltre a guardare il danno della presenza di queste sostanze in quelle persone, siamo andati ad analizzare anche le piante, il muschio, ma non è una semplice analisi, cioè i muschi che crescono nelle zone dove le persone vivono. E siamo andati a vedere anche gli animali, le api. Va bene che pensate, dall'estrazione... sarebbe stato lo stesso risultato. L'api è più facile, la pecora era più difficile, anche economicamente sarebbe stata più difficile, ma non è importanza, la forma di vita è forma di vita. Ma c'è una malforma. Ma questa è poi dice una cosa giusta, perché, e questo è un altro punto importante che poi abbiamo visto, mai pubblicato e nascosto, le malformazioni genetiche degli uomini, le malformazioni genetiche degli animali, noi col generale Costa allora, quando a Villa di Briano e a Casal dei Principi sono andati a guardare quello che erano gli sversamenti, si sono trovati carcasse di animali, alcuni di questi animali addirittura erano o con due teste oppure avevano delle malformazioni incredibili, come dice lei giustamente. Pubblicò il professor Iannuzzi, pubblicò il ma in realtà il significato scientifico a quello, però proprio non l'ha più pubblicato nessuno ha più pubblicato, e se è stato vietato addirittura alla scuola di veterinaria agraria di generare questi dati. Il nostro lavoro uscì come il primo lavoro dove noi dimostrammo che esistevano 40.000 casi nelle terre dei fuochi in Italia che non venivano intercettati dagli organi ufficiali. Voi pensate, statisticamente potete sbagliare su 100, potete sbagliare su 150, potete sbagliare su 1.000, ma come si fa a non intercettare 40.000 casi di tumore? Però solo quelli della mammella abbiamo preso a campione, va bene? 40.000 casi che non venivano intercettati. Questi 40.000 casi c'era un 14% di donne tra i 25 e i 30 anni e sotto i 40 anni anche. C'è un'età pre-screening. C'è un dato così importante che avrebbe cambiato completamente quello che erano anche le strategie nella prevenzione su questo tumore. Ma io sto parlando di questo tumore, come ce ne possono essere altri? Quindi la questione del danno sul materiale genetico del sistema uomo, animale, pianta è un danno che esiste. È chiaro che si può mangiare un prodotto e un prodotto non abbia assorbito o non abbia o abbia filtrato quello che potesse essere una sostanza tossica. Ma in realtà in quelle zone esistono una serie di criticità appunto, e di insulti ambientali che sicuramente influiscono in generale sul sistema, va bene, sul sistema di vita di quel paese o di quella zona specifica che si va a studiare. Quindi noi cosa dobbiamo fare? Quello che dobbiamo fare è semplice, oramai qualsiasi altro dato scientifico è superfluo, perché vai ad andare a confermare, anzi, siccome non è stato fatto nulla, pensate su alcune patologie, perché poi le persone muoiono, però l'insulto e il danno è perpetuo e continuo. Noi sviluppiamo delle tecnologie fantastiche, incredibili, abbiamo a disposizione delle munizioni notevoli nel frenare patologie gravi come quelle tumorali ed altre, però se l'insulto è continuo non c'è tecnologia che tenga. Sì, riusciamo a aumentare la sopravvivenza, però non tutti, neanche con una sanità che crolla, anche una sanità pubblica che crolla, specialmente nel sud Italia, ci troviamo ancora di più in una situazione gravissima, perché non riusciamo neanche a offrire quello che può essere il cosiddetto biomonitoraggio. Quindi la bonifica è importante, l'eliminazione del danno, ma è importante simultaneamente avere contezza di un problema gravissimo, che anche se apparentemente sani, noi vivendo in quelle zone abbiamo una suscettibilità a sviluppare delle patologie tumorali e non, che è più elevata di quella di persone che vivono in zone più salubri. Questo è chiaro, io posso stare benissimo, ma in realtà è una bomba orologeria. Io so che il mio organismo ha avuto una serie di insulti, il mio organismo reagisce, poi ci può essere qualche organismo che ha una fragilità maggiore a livello genetico, poi ci sono le mancanze di screening, biomonitoraggi non ne vedete, vedete situazioni gravissime a livello ospedaliero, non esiste un programma di biomonitoraggio. Io ho scritto, letteralmente scritto, il programma Ambiente e Salute del Ministero della Sanità, il PNRR, dove io non solo ho inserito il programma One Health, e non solo io consigliai, e per la prima volta il Ministero della Sanità ha una direzione generale su ambiente e salute all'interno del Ministero della Sanità. Prima era solo ambiente, però io ho spiegato, attenzione, voi avete l'ambiente, però alla fine tutto quello che succede si riversa sulla salute umana, e quindi è la sanità, è il Ministero della Sanità che deve essere responsabile poi dopo a correggere questo, ma non solo il Ministero della Sanità, deve essere responsabile il Ministero dell'Agricoltura, devono essere responsabili anche gli altri ministeri, perché io ho spiegato qual è il problema One Health, tanto che è nato anche il programma One Health all'interno del Ministero della Sanità, nuovissimo, come dal punto di vista del, anche teorico scientifico, che dimostra appunto come il danno è a 360 gradi nella acqua, aria e terra e ambientale. Poi non dimentichiamo che un altro punto importante, se voi andate a vedere adesso i 10 parametri importanti nella prevenzione, perché è chiaro che l'unica strategia per sconfiggere o debellare una patologia, non riuscendola a intercettare quando è troppo tardi, dobbiamo andare comunque a prevenire, specialmente una patologia come il tumore, che è una patologia che secondo me non si guarirà a un certo livello, ma si controllerà sempre di più, in maniera sempre più sofisticata, ma la cura arriverà attraverso una prevenzione perfetta. Quindi dobbiamo sapere, allora noi parliamo di stili di vita, tutti quanti si concentrano sulle diete, sull'importantissimo. Però io ho voluto che inserisse questo governo nel decalogo proprio della prevenzione la parola inquinamento. Se voi andate a vedere nel sito web del Ministero della Sanità, ci stanno, vabbè, le diete, lo stile di vita, ci sta la... ma c'è anche una parola, inquinamento. E questa è stata anche una novità proprio. Quindi è chiaro che anche a livello centrale, anche la sentenza ha giocato un ruolo fondamentale. Perché con grande soddisfazione noi possiamo dire che sia l'Istituto Superiore di Sanità, e lo dico anche che l'Istituto Superiore di Sanità, che ignorava la problematica, che veniva consultato in maniera anomala da quelle che erano le istituzioni, perché le istituzioni che controllano tutte le posizioni apicali anche a livello dell'Istituto Superiore di Sanità, fu Costa che mi impose nel Comitato Scientifico dell'Istituto Superiore di Sanità. E nella sentenza che c'è stata di Napoli Nord, chiaramente è citato il lavoro Veritas. Il lavoro Veritas, non il lavoro fatto dall'Istituto Superiore di Sanità, che non l'ha mai fatto, un lavoro dimostrando un nesso di causalità o un possibile legale, ma cita chiaramente il lavoro Veritas, perché è una dimostrazione diretta del danno che esiste in quello studio pilota sul paziente. E se andate a vedere anche la sentenza europea, ci sta una pagina intera di cui parla del lavoro Veritas, perché è la dimostrazione che il paziente o le persone che vivono in quelle zone sono chiaramente colpite in maniera perpetua e continua da questi proiettili, va bene, letali, che costantemente ci infieriscono sul nostro materiale genetico. Quindi questa, diciamo, caro Tommaso, è la realtà dei fatti. Per quanto riguarda le polveri sottili, volevo dire solo questo, perché la prima sentenza in Italia è stata, perché poi io devo dire, per quei colleghi che a me costa molto chiamare colleghi, che hanno offerto le loro consulenze tecniche, parlo di professori universitari, parlo di oncologi che hanno avuto nei loro consigli di amministrazione l'Eternit, hanno finanziato, l'Istituto Europeo di Oncologia è stato finanziato dall'Eternit. Il presidente dell'AIRC a un certo punto si è dovuto dimettere e era nel consiglio di amministrazione dell'Eternit. E io non posso fare il nome, non posso dire, ma io ho letto delle relazioni in cui grandissimi oncologi che ci hanno rappresentato anche a livello ministeriale ed altro, che dicevano che la Coca-Cola era meno pericolosa, era più pericolosa dell'amianto, per dire. Quindi quando io poi vedo che dal punto di vista anche scientifico abbiamo una presenza di esperti che non dicono quello che dovrebbero dire. La prima sentenza in Italia su isochimica di Avellino è quando, durante una mia relazione, il procuratore capo di Avellino disse: ma io non posso più condannare perché 30 anni fa è stato fatto il danno. E io dissi: guardi, invece no. Il danno è ad itinere, perché tu non è che ti fumi una sigaretta, o casomai dopo 30 anni ti sviluppa il tumore al polmone. Quindi lui su questa base riaprì il caso isochimica, ci sono state le condanne e finalmente alcune delle famiglie che hanno subito questo danno hanno avuto anche dei risarcimenti. E la stessa cosa sulle polveri sottili. Le polveri sottili, è chiaro che voi alle istituzioni comunali, la polvere sottile l'azione che fece Avellino, dove ci fu la prima sentenza sulle polveri sottili in Italia, e lo stesso procuratore, adesso è a Roma il procuratore che era a Napoli Nord, adesso è ad Avellino, anche, però anche quello precedente però io ho lavorato, è chiaro che i sindaci cosa dovranno fare? Dovranno immediatamente monitorare la presenza di polveri sottili nell'atmosfera della propria, del proprio paese, va bene dove stanno, e se si trovano dei livelli elevati è chiaro che c'è la negatività dell'impatto su questo, e devono denunciare la Procura della Repubblica, devono denunciare, devono avere il coraggio con queste consulenze tecniche, un ARPAC che deve essere, Sergio Costa aveva il suo team di ARPAC completamente indipendente, aveva creato un team investigativo completamente indipendente, chiedetevi perché, perché poi ci sono solo una serie di esperti tecnici che hanno offerto la loro consulenza tecnica per dire delle verità scientifiche e sono venute fuori finalmente con il danno. Quindi è importante che il meccanismo è questo, si identifica il danno, si identifica la presenza di sostanze nella terra, nell'acqua, nell'aria, subito la denuncia alla Procura della Repubblica su questa parte qua, e la bonifica, l'eliminazione del danno e il biomonitoraggio, questo è il segreto, oramai è chiaro la via da seguire, noi dobbiamo assolutamente eliminare il danno e iniziare un programma di prevenzione per quelle popolazioni. Allora, Antonio ha nominato la parola magica che è bonifica. Dopo la sentenza della Corte Europea, dal cappello è uscito un commissario per le bonifiche. Bonifiche che avrebbero dovuto fare in Campania, quantomeno, la Regione con i fondi che aveva, ma in realtà, a parte la Resit e qualche altra piccola discarica, le tante discariche non sono mai state bonificate. Servono fondi, servono anche tecnologie adeguate, esistono tecnologie moderne, tecnologie efficaci. E lo chiediamo a Mariano Sirignano, che è ingegnere chimico, come bonificare in tempi possibilmente non biblici e possibilmente con fondi di cui si può disporre, cioè senza spendere tanto, il che significa poi che non si bonifica più. Buonasera a tutti e ringrazio Sodano per l'invito che ho accettato. Io sono di Nola, quindi al di là, diciamo, di essere docente universitario della Federico II Università di Napoli, sono, diciamo, sicuramente coinvolto. Ecco, a proposito, prima si parlava di commissari. I commissari non funzionano perché sono asimmetrici rispetto al rischio. Loro, non vivendo sul territorio, non avendo legami sul territorio reali, è chiaro che diciamo, non rischiano del proprio. Quindi mi fa piacere, e lo dico, diciamo, l'Università di Napoli, in particolare il gruppo nel quale sono cresciuto e lavoro, ha già collaborato anche con il comune di Pomigliano, siamo già venuti a occuparci di inquinamento in questa terra, e perché è un problema, diciamo, vorrei dire anche interessante dal punto di vista scientifico, insomma, al di là, diciamo, dell'importanza capitale per il territorio. La giornalista parlava di bonifica. La bonifica, facendola rapida e con pochi soldi, mi sa che su questo c'è una brutta notizia. Le nozze con i fichi secchi non si possono fare, vengono male, e no, rischiare di peggiorare no, però a rischiare di mettere un bollino di bonifica fatta su qualcosa che poi è stata, come dire, approssimativa, meglio di no. Il problema in questo momento, credo, diciamo, è più che altro un censimento dello stato attuale dei luoghi, perché probabilmente, come diceva il professor Giordano, ad oggi non c'è una conoscenza capillare sul territorio di quello che è stato. E su questo io vorrei, diciamo, dividere in due diciamo, la problematica. C'è una problematica sicuramente passata, che è una problematica riguardante sia lo sversamento dei rifiuti, che ha un impatto incredibile sul suolo, e quello che è stato, diciamo, per anni l'utilizzo dei roghi come metodo poi di smaltimento. Quello ha chiaramente, diciamo, in un periodo in cui, per capirci, non c'erano nemmeno le centraline ARPAC, ok? Quindi, insomma, non si sapeva nemmeno quanta era la quantità totale, figuriamoci l'impatto dei singoli roghi, che chiaramente purtroppo, lo dico, spesso sono, questi eventi sono anche diluiti dal territorio, quindi purtroppo chiaramente un rogo tossico, un rogo, io dico un rogo tossico nel senso, ci siamo capiti, no? Un rogo di rifiuti è un rogo che produce una quantità di inquinanti enorme, diossine, benzopirene, particolato, e chi più ne ha più ne metta, poi dipende un po', insomma, da che cosa si brucia, che però ha un impatto devastante sul, letteralmente, i primi 500 metri attorno a sé. Poi diventa complicato da tracciare perché si mischia con l'inquinamento ambientale di fondo. E quindi il dramma della Terra dei Fuochi per anni è stato che di questi piccoli roghi ce n'erano tantissimi. Quindi che l'impatto sia stato poi devastante in termini di cause di morte, incidenza tumorale, è sicuramente un dato di fatto. Questo però appartiene a... Allora, sui dati tumorali campani non è il mio campo, però io per sfizio sono andato a vedere i dati. Il problema è che se facciamo i dati del registro tumorale Campania, 33.000 non è un dato il doppio della popolazione nazionale. Il problema è questo, che si incomincia a diluire sulla Campania, il dato di Acerra, Pomigliano, si perde. Perché 33.000 è in linea con i 390.000 tumori annui e il 10% della popolazione della Campania. Quindi non moriamo il doppio degli altri. Poi può darsi che ci sono in alcune zone dove l'incidenza, sì, purtroppo non, è difficile trovare la smoking gun del doppio, però incominciano a essere per particolari tipi di tumore, tipo il fegato, i polmoni, diciamo, che sono associati a particolari tipologie di inquinanti, si incomincia a riscontrare una statistica significativa. E non solo tumori, certo, poi il tumore così, per esempio, chiaramente, e arrivo, diciamo, alla seconda parte, l'aria è un, diciamo, rispetto alla terra, accumula per molto meno tempo. Ok, un inquinamento in atmosfera, una bella lavata di pioggia e lo trasferisce sulla terra, dove rimane, mentre invece l'aria tende a ripulirsi con una... E quindi, mentre da un lato le bonifiche devono andare a intervenire su quelle che sono le problematiche delle falde, dei suoli, per permettere, insomma, a tutti di stare tranquilli anche dal punto di vista della coltivazione, dal punto di vista della produzione agricola e della produzione, diciamo, alimentare in generale, sul territorio insiste un problema per quanto riguarda invece l'inquinamento ambientale di tipo atmosferico da polveri sottili, che era l'originaria, diciamo, il presentenza, era l'originaria chiamata alle armi di Tommaso. E allora, su questo però io, diciamo, do un'indicazione. Gli studi fatti anche da noi dimostrano che sul territorio non c'è, ad oggi, per fortuna aggiungerei, quello che probabilmente c'è stato in passato. Quindi non c'è un massiccio uso di roghi tossici, sono degli episodi che ci siamo lasciati alle spalle. Rimane però una conurbazione territoriale molto particolare. Come ha detto Solana, siamo in una fossa, in una valle, quindi, ed è una cosa che l'ARPA riconosce, perché sappiamo che ci sono, è inutile che ve le ripeto, le avrete sentite già tante volte, sapete che ci sono è una zona speciale per il quale si vengono attivate delle procedure quando un certo numero di giorni si superano i limiti, eccetera, eccetera. Ora il problema però rimane, e il problema purtroppo siamo noi. Sulle polveri sottili noi contribuiamo tantissimo. La prima causa di inquinamento da polveri sottili è il traffico. La seconda causa di inquinamento da polveri sottili è il riscaldamento domestico. E d'inverno siamo a livello di 50 e 50. E purtroppo questa cosa, tra virgolette, è anche peggiorata negli anni. Perché? Perché l'aumento del costo del gas, che che è un combustibile pulito rispetto agli altri, ha fatto sì che tante persone invece dei termosifoni utilizzassero le stufe a pellet. Le stufe a pellet buttano fuori molto più particolato, infinitamente più grande rispetto a una caldaia a metano. E si usa la stufa a pellet perché è più economica, perché tu riscaldi solo la stanza dove sei. Se non c'è la stufa a pellet, c'avete il camino. Camino che è completamente non regolato. Ah, vi dico una cosa, il camino vi piace proprio perché quella fiamma gialla vi riscalda molto. Ecco, quella fiamma è gialla perché dentro c'è il particolato, altrimenti sarebbe azzurra come quella del fuoco di casa. Quindi ci sono tantissime fonti di inquinamento, ci sono alcune sulle quali possiamo intervenire. Per esempio, imporre un riscaldamento domestico non basato sulle biomasse è qualcosa che in un tempo più o meno breve si riesce a ottenere. Aggiungo un'altra cosa. È sparita la terra dei fuochi. Io vengo da Nola e ci sono mesi nei quali non si può respirare. La motivazione è perché bisogna bruciare le foglie. Tanto le foglie è naturale. Ecco, vi do una notizia. Bruciare le foglie non è naturale e non produce aria di montagna, produce aria inquinata. Per cui semplicemente l'abbruciamento delle foglie andrebbe vietato, punto. Andrebbe vietato seriamente, punto. Ci sono i droni per controllare dove sono i roghi. Ci sono i droni per controllare dove ci sono i roghi, vai lì, sequestri tutto il terreno, la seconda volta non succede più. È così. Però questa è una cosa che dà fastidio, perché il contadino magari lo conosciamo. È un elettore. O no? Esatto, ci siamo capiti. Allora, le soluzioni tecniche ve le sto dicendo. Perfetto, le soluzioni tecniche ve le sto dicendo. Un'altra cosa. Negli anni, le strade che erano pensate per alto scorrimento sono diventate sempre di più strade urbane. Io vengo da Nola. La 7 bis è una strada sulla quale passano i camion ancora, perché non c'è un'altra alternativa da Nola ad Avellino, a Mercogliano più o meno. Passano camion pesanti, camion che trasportano anche materiali polverosi, e si trovano mischiati nel traffico. Prima era del traffico di passaggio, adesso con gli anni la 7 bis è diventata una strada comunale a tutti gli effetti. E continuo a vedere costruzioni su aperture, quindi è ufficialmente una strada comunale, che vuol dire traffico. Vi sfido a tornare, io adesso devo tornare a Nola, ci siamo capiti, quello genera inquinamento, tanto inquinamento, quindi ci vuole una soluzione di tipo urbanistica. E poi c'è l'unico sistema per realmente abbassare i livelli di inquinanti, almeno nelle aree urbane, è l'installazione di piante, ma non della pianta, di cordoni verdi. È l'unica cosa che potete fare. Tra altre cose, abbatte il rumore, abbatte l'inquinamento, si abbattono le temperature nelle strade. E diventano dei fantastici anche recettori per fare il biomonitoraggio, sicuramente i più semplici da utilizzare. Queste sono le cose che... Allora, però, io non sono venuto a portarvi, questa roba, come dice il professor, ormai la si sa da una vita. Quindi pensateci bene quando dovete capire chi deve mettere in pratica queste cose, se è un commissario, se è un politico, se è un assessore, se non lo so chi è, però in qualche modo queste sono le cose. Vi dico di più, l'inceneritore, non fatemi spendere una parola del tanto vituperato inceneritore, io da ingegnere chimico vi dico che l'inceneritore è una fortuna, e vi dico perché. Lo farei volentieri a casa mia l'inceneritore, non c'è problema. non c'è problema, glielo facciamo a casa mia, non c'è assolutamente problema, se la, soprattutto se l'alternativa è la terra dei fuochi. Se l'alternativa è il rogo incontrollato, se l'alternativa è la discarica, l'inceneritore o il termovalorizzatore è un sistema che tra le altre cose viene usato in tutto il mondo. È inutile che vi ripeta sempre la solita, il solito esempio dell'inceneritore vicino alla Sirenetta di Copenaghen, che lo conoscono tutti. C'è, ma non c'è, lo so, ci fanno anche lo sci sopra. Eh? Quindi, come vede, si può fare. C'è a Modena, c'è a Torino. Perché l'inceneritore, è una cosa positiva? Perché l'inceneritore, come sorgente di inquinamento puntuale, può essere molto più facilmente monitorata. Vogliamo fare una domanda? Quante persone conoscete che girano con l'auto con il buco nel DPF? Ah, non fate i cattivi, perché vi vedo che scuotete le teste positivamente. Sapete quanto inquina un'auto con il buco nel DPF? Ma non le possiamo controllare tutte. Sapete qual è il vero vantaggio nel passare eventualmente alle auto elettriche? Che tutta l'energia che dobbiamo fare con le auto elettriche la faremo in una centrale dove bruceremo lo stesso combustibile che bruciavamo nell'auto di prima, perché al momento così è e così sarà per un bel po', ma lì sarà molto più semplice da bruciare, condizioni stazionarie, ipermonitorate. Questo è il vantaggio di avere delle sorgenti localizzate e puntuali rispetto a una sorgente distribuita. No, perfetto. No, l'inceneritore non è meglio del fuoco, attenzione, l'inceneritore non è meglio del fuoco, diciamo, nel senso che prendo tutto il materiale e lo brucio. La presenza dell'inceneritore non ha peggiorato la raccolta differenziata in nessun posto dove è stato installato. Gli studi scientifici dicono che ovunque sono stati installati sistemi di termovalorizzazione, la raccolta differenziata è aumentata, e io seguo quello che ha detto il professor Manfredi, sindaco di Napoli, alla proposta di chiudere l'inceneritore, ha detto certo, è un asintoto. L'asintoto però in matematica non si raggiungerà mai. Quindi l'errore, però togliere l'inceneritore prima di raggiungere l'asintoto, attenzione a fare queste cose. A Roma non l'hanno messo, è una bomba orologeria. Presto ne sentirete di nuovo parlare delle discariche di Roma riempite e mal riempite. Quindi bisogna stare attenti, le soluzioni esistono. A volte non ci piacciono, ripeto, non possiamo usare più la stufa a pellet. Il buco nel DPF non lo possiamo fare. L'auto probabilmente tutti i giorni non dovremmo prenderla. Ok, quindi... Esatto. Questo è il problema. Sì, sono d'accordo, anche io quando la prendevo per andare a Napoli all'università 25 anni fa andava male, ma andava. Adesso è saltata completamente. Questo è un classico esempio di come una cosa che non sembra relazionarsi all'inquinamento è distruttiva. Questo significa, tra le altre cose, noi siamo con le strade che stanno vicino al collasso. Quindi basta poco per portare tutte le strade totalmente al collasso. E una macchina ferma, accesa, d'inverno magari anche con riscaldamento acceso in macchina, e l'aria condizionata d'estate, è una fonte di inquinamento distruttiva. Mi fermo. Grazie. Allora no, allora, sentite... Allora, silenzio un attimo, signore col cappello blu. Allora, noi adesso facciamo concludere questo giro di tavolo al vescovo emerito di Acerra, Giovanni Rinaldi, e non lo so che lui cosa dirà su questo inceneritore. Dopodiché, chi vuole fare qualche domanda, interventi, per favore, le domande corte, perché non dobbiamo, cioè, poi dobbiamo ascoltare le risposte. Chi vuole, dopo può presentarsi e, diciamo, in qualche modo prenotarsi per gli ultimi 10 minuti, in modo che credo che per le 20 più o meno dobbiamo lasciare la sala. Prego. Buonasera. Io sono... Si è parlato molto per il futuro, in prospettiva futuro. Io sono vecchio, vecchissimo, sono quasi novantenne. Sono in pensione da 11 anni, sono andato vescovo ad Acerra nel 2000. E nel 2000 Acerra era in fermento, proprio in grande fermento, perché proprio in quei mesi di gennaio, febbraio, era stato firmato il contratto tra Bassolino, che era... il commissario straordinario per l'emergenza dei rifiuti, per il smaltimento dei rifiuti, e la Fisio Italimpianti, cioè la Fiat, insomma, l'Imbregilo Fiat. No, e la gente stava su, anche perché c'era ad Acerra una situazione di inquinamento già preesistente. C'era stato nel 1987 un decreto del Ministero che dichiarava la zona industriale di Acerra inquinata. Il Comune aveva anche emanato un decreto chiudendo 20 pozzi, e poi c'era soprattutto 120 ettari di terreno inquinato dove venivano a pascolare queste greggi, no? Queste greggi che... poi io mi fermo a raccontare alcune cose piacevoli, perché adesso l'atmosfera sta un po' così riscaldata, alcune cose proprio anche diciamo così un po' più piacevoli, così leggere. E allora un giorno davanti alla cattedrale di Acerra c'era una piazzola, una bella piazza, e ci siamo trovati un sabato sera tutte le pecore di questo pastore, no? Anche con le pecore malformate, nate malformate proprio, e che sono state tutta la notte, tutta la mattina della domenica, figuratevi che puzza che c'era, proprio una cosa straordinaria. Quindi questa cosa c'erano tante associazioni, devo ringraziare anche è andato via il sindaco di Acerra, ma c'erano due sindaci che c'erano molto, che mi hanno collaborato tantissimo, poi soprattutto il senatore Sodano è stato un po' colui che ci ha portati a Roma, Senato, Bordon, siamo andati un po' dappertutto, alla regione, Tortoli, ricordo, proprio ci siamo, i due sindaci di Acerra erano uno di destra e uno di sinistra, ma erano tutti appassionati per questa storia, tutti appassionati. Il popolo di Acerra è veramente stato compatto. Figuratevi che noi il 21 di giugno del 2000, quindi 4-5 mesi dopo la firma del contratto, abbiamo fatto una manifestazione di 20.000 persone che hanno partecipato a questa manifestazione, proprio infervorati, veramente appassionati, perché gente che amava la terra, perché Acerra viveva di terra, viveva di campagne. Anche io sono originario di Cimitirio, vivo a Cimitirio, che sono da 11 anni che sono in pensione, e sto a Cimitirio, anche mio padre era contadino. Mi appassionava anche a me questa cosa, proprio, sai, io ricordo, eravamo piccolini, io sono nato 37, quindi ricordo che si beveva l'acqua dei pozzi, ma è una cosa normale. Quindi questo dolore, insomma, della gente, no? che vedeva in qualche modo compromessa la propria identità, il proprio l'ecosistema ambientale e soprattutto l'amore al popolo, mi ha spinto proprio a partecipare con tutto il cuore. E non c'è stata manifestazione in cui io non sono stato presente, tutte le manifestazioni. Sono saliti perfino su un camion, siamo andati una volta, c'era un ufficio proprio degli Italian Impianti, no? E siamo andati proprio un gruppo di persone, dice, ma voi perché, quale ragione, chiedere spiegazioni. E dopo qualche mese è venuto a trovarmi il figlio di Romiti, perché il presidente di questa associazione era Romiti Senior, il figlio, e mentre parlava con me, io pensavo una visita di cortesia, così, a un certo punto arriva una telefonata da Roma. E chi era? Il ragioniere dello Stato, non mi ricordo più con il nome, lo tenevo in mente, però me lo scordo. E questo mi fa, volete parlare voi con... Dico no, chi lo conosce? Perché devo parlare? Con quella ragione? Io non ho nessun motivo di parlare. Evidentemente era una visita di interesse, cioè se avete bisogno di qualche cosa, qui c'è la possibilità di fare. Io ho partecipato e dopo questa manifestazione io ho scritto una lettera del consiglio, non da solo, ma con il consiglio pastorale diocesano, siamo appassionati tutti quanti, ho scritto una lettera al presidente Ciampi, al presidente del Senato Mancino, al presidente della Camera che era Violante, al presidente della Regione Bassolin, al ministro dell'Ambiente Bordon, al presidente dei Vescovi Italiani Ruini, al prefetto di Napoli, dottor Romano, al sindaco di Acerra, professore, che ringrazio, e poi soprattutto anche Marletta, che ha partecipato anche lui a un'altra manifestazione del 29 agosto del 2004, dove fu anche picchiato e fu ferito perché intervenne la polizia. Pagina 15, io poco vedo. Pagina 15. 15. Ecco, e quindi per dire veramente ci siamo appassionati a questa cosa, ma con tutto l'animo, con tutto il cuore. E altre cose che vorrei ricordare, alcune cose, anche perché vedete. A parte la mia inclinazione personale, le persone semplici sono di famiglia semplice, umile, e quindi così il dolore della gente mi colpiva, insomma sinceramente con tutta l'anima, con tutto il cuore, ma anche perché vedevo che veramente c'era da poter fare qualche cosa, perché non tutte le cose erano state fatte per bene, perché c'era questo grande problema, gigante problema dello smaltimento dei rifiuti, ma questa emergenza ha portato a una serie di deroghe, di irritualità, chiamiamolo così, io lo scrivo in questa lettera, irritualità politiche e amministrative. Noi non siamo stati per nulla mai interrogati, cioè il popolo, ma non solo il popolo, ma il comune, la provincia, il bacino Napoli, non sono stati per nulla interrogati, cioè il popolo assente, territorio passivo, territorio inerte, hanno fatto, c'era un'emergenza, però l'emergenza, io ebbi anche una polemica molto forte con l'onorevole Paolucci, il quale era il vicepresidente di Pastorino in quel momento, il quale giustificava la localizzazione dell'inceneritore affidata a chi? Alla ditta. Ma la politica che fa? La politica media per vedere dove è meglio, no? Non che fa scegliere. Sì, è proprio la sconfitta della politica. Una mancanza di democrazia e la sconfitta della politica. E non vi dico tutte le altre emergenze, ma le potrei, per dire sinceramente, potete trovare, io ho scritto questo libro nel 2011, qualcuno vuole ancora può prenderlo, ecco, è proprio per ricordare questa passione. E io ricordo che nel 2003 invitammo un professore universitario americano, Paul Connect, quale è venuto due volte in piazza davanti è venuto in piazza a parlarci. Sapete cosa ha detto? Ha detto Dio ricicla, il diavolo brucia. Dio ricicla, il diavolo brucia. l'onorevole aspetta, quel tempo era dunque ministro Matteoli. Ministro Matteoli, io avevo ripetuto questa frase in una riunione come questa, non so, allora lui è andato presso gli studenti dell'Università di Salerno e ha detto: il diavolo, il vescovo di Acerra mi ha chiamato diavolo perché io voglio bruciare. Tra le altre cose, questo signore disse che l'impianto che era stato fatto, che era progettato, e che la commissione VIA del Ministero dell'Ambiente dichiarava che era sovradimensionato, cioè troppo grande, più grande, doveva bruciare 1500 tonnellate di rifiuti al giorno, ed era obsoleto, cioè vecchio perché in Germania non l'avevano voluta, veniva portata in Italia. Lui disse che sarebbero state effettuate 27 ammodernamenti tecnologici, non sappiamo se l'abbiamo fatto o no, e non sappiamo neanche se hanno fatto veramente una vera valutazione di impatto ambientale, tant'è vero che quando poi hanno costruito l'inceneritore, quella zona dove è nato l'inceneritore si chiama Pantano, sono andati a scavare, l'acqua era fuori, ha dovuto fare una fondazione enorme di cemento armato, vuol dire che non era stato per nulla fatto nessuna valutazione veramente di impatto. E poi anche la commissione VIA diceva altre cose, diceva è troppo urbanizzato, è una zona urbanizzata, cioè 500 metri in linea d'aria dalle case dove si abitava, dove la gente abita. E l'ARPA, che una volta siamo andati a una riunione dell'ARPA a Napoli, ma voi sapete che c'è Oriente Terre? Che dice, ma che è Oriente Terre? Oriente Terre è quello che gira da est, va verso la Cerra, quindi quando tira vento, tutto il fumo dell'ingeneritore va verso la Cerra, non lo sapevano neanche, cioè, cose con molta, fatte veramente con molta, alle volte un po' di approssimazione, sempre per l'emergenza rifiuti, ecco. Tante altre cose. Quanto poi è stato inaugurato l'inceneritore? Mi ha telefonato Bertolaso nel 2009, 26 di marzo 2009, adesso inauguriamo, lei vuole venire a benedire? Dice, ma cosa mi chiede? Io ho già fatto la guerra, fino a mo posso venire a benedire. Non posso, mi metterei proprio anche contro la gente, proprio antipopolare, non è possibile. Dice, ma possiamo chiamare un altro? Chiamate chi volete, ho detto, però, devo chiedere a me l'autorizzazione, il permesso, perché è il mio territorio, mi deve, qualunque vescovo può andare benissimo, però mi deve fare questa cortesia. E non è andato nessuno, è Benedetto Berlusconi. No, Benedetto no. È inaugurato. E poi erano ad essere 5 inceneritori. Furono tutti a due, Battipaglia e Acerra. Battipaglia vinse la causa e si scelse Santa Maria la Fossa, che è più o meno a 20 km in linea d'aria da Acerra, cioè un altro, poi cadde anche quell'altra ipotesi, tutto da Acerra. E questo è contro la legge, e non si può. Il professore parlava un momentino fa di macchine, ma quanti camion arrivano da Acerra? Perché hanno scelto talmente un posto vicino, localizzato vicino alle strade, sulle strade che ci sono, e tutti quanti vengono lì, quindi evidentemente sono stati. E quando hanno inaugurato, figuratevi, quella sera che hanno inaugurato a Napoli, si è fatta una serata, sapete quanto hanno speso per una serata di cantanti? 750.000 euro per un cantante che si chiamava, non so chi è, ma John Elton, 750.000 euro, per dire la leggerezza. Io voglio solo dirvi una cosa, io pure ho sofferto per questa cosa, no? mi ricordo quando venivo da, ero andato a farmi una settimana di vacanza una mia nipote che abita ad Avezzano, andavo lì per stare un po' fuori e tornavo a casa il 28 la sera precedente, 28 agosto, mi telefono il cardinale Re, che era il cardinale dei Vescovi, dice: lei dove, che fa, dove sta? E dico: sto andando a casa. Dice: ma lei per domani, sa, di che eminenza, smette, io guidavo io, non mi abbia la cortesia di aspettare, mi fermo e poi parliamo, perché mi fece capire che voleva farmi una bella, e comunque mi disse: sarei andato pure io alla manifestazione, l'avrei visto pure io ammazzato. E mi disse di non andare alla cosa. Ecco, vorrei. Acerra è una modesta diocesi dove il vescovo è stato in qualche modo sempre considerato, prima di me Riboldi, ma tutti i vescovi, Capasso, un vescovo della seconda guerra mondiale, lo hanno portato prigionieri i nazisti, i soldati nazisti che hanno incendiato una parte di Acerra, lui è andato a piedi, l'hanno fatto mettere in ginocchio in mezzo alla piazza, ecco, poi l'hanno mandato a casa, hanno ucciso anche delle persone, cioè è stato sempre, come dire, il vescovo defensor civitatis, in qualche modo il difensore della città per la modestia economica, forse anche un po' sociale, diciamo così, ma me la sono sentita, io non mi sono tirato indietro. Che se il Signore mi perdona se ho fatto qualche sbaglio. Comunque devo ringraziare molto il senatore. Il senatore, io gli mando ogni giorno un messaggio. un messaggio spirituale, però. Certo. Io volevo lasciare lo spazio, perché giustamente le persone vengono per intervenire. Allora, il primo che ha alzato la mano, mi pare, quel signore con la barba, prego. Tutte e due, sì, dico per ordine. Sì, sì, per adesso questi tre. Ok, fermiamoci un attimo a questi tre. Domande brevi, poi dite a chi le dovete rivolgere del parterre. Anche qua, vabbè. Vai, anche qua, vai. Domande brevi che non devono includere le risposte. Buonasera. Sono Gennaro Esposito, rappresento i medici per l'ambiente stasera della Campania, però sono presidente della sezione Nola Cerra. Una domanda al professore. Allora, il nostro comitato scientifico nazionale, il professore Ghirga, ci ha mandato un lavoro scientifico tratto da emissioni di polveri fini e ultrafini di impianti di combustione, datato 2010, dico anche gli autori, poi magari glielo dico. Gli autori poi glieli dice a lui. In soldoni, che cosa, e quindi voleva anche un parere del professore. In soldoni, che cosa dimostra il lavoro? Il lavoro dimostra che gli impianti di incenerimento, più sono dotati di filtri per le PM10. E più liberano e danno spazio alle ultrafini, perché noi sappiamo che le ultrafini si attaccano alle particelle più grandi, le PM10 attaccano, sulle PM10 si attaccano le 2,5, sulle 2,5 si attaccano le 0,2 e così via, le 0,1. Se io blocco le PM10, cioè le filtro, do più spazio nell'atmosfera alle ultrafini, con effetti sulla salute più deleteri. Vediamo. Quindi, che professore, dice. Professore, allora facciamo allora, anche le altre. Okay. La domanda è: sono utili o sono pericolosi questi inceneritori? Ok, questo è per lui. Adesso viene l'altro signore. Sì, sì, glielo do il microfono. Deve venire fino a qua, però. Se non viene, come glielo do? Prego. Ciao, presentati. Salve, sono Vincenzo Petrella dei Volontari Antiroghi Acerra e Comitato Unitario No Quarta Linea all'inceneritore di Acerra. Più che una domanda, io due minuti, proprio un No, due minuti no, sì, sì. Meno. Un minuto. Okay. Pure tre. Questa è un'immagine di una di quelle pecore che tanti anni fa abbiamo portato in piazza. C'ha un solo occhio centrale, all'interno ce ne ha due, c'è una sola orbita con un solo occhio. Vedete? Non so se riuscite a vedere. All'epoca noi facevamo una domanda alle istituzioni, non sono quelle di Copenaghen. Ad Acerra non l'hanno fatta la pista di sci perché la neve non c'è, altrimenti forse ce l'avremmo fatta pure là. Allora, noi facevamo una domanda. Quando oggi tocca a queste pecore, domani a chi toccherà? Bene, sta toccando a noi. Negli anni è toccata esattamente a noi. L'impianto di Copenaghen, i danesi hanno altri problemi che noi non abbiamo, tantissimi altri. Okay, okay. Andiamo al dunque. L'inceneritore di Acerra, rispetto a quello, brucia 732.000 tonnellate di rifiuti l'anno, ciò rispetto ai 440.000 di altri impianti e molti di meno ancora in altri impianti. Ciò significa che il traffico veicolare che si viene a generare per il trasporto di quei rifiuti all'impianto e nella zona industriale più vasta della Campania, cioè la zona ASI di Acerra, è enorme. L'impianto del termovalorizzatore di Acerra, che noi chiamiamo inceneritore perché tecnicamente si chiama inceneritore, va bene, è autorizzato a bruciare il tal quale. Gli altri impianti in tutto il mondo bruciano il 19-12-12 secco differenziato. Da noi brucia esattamente il tal quale, 750.000 tonnellate di rifiuti l'anno. L'impianto adesso è stato la domanda è che noi purtroppo, caro professore, io l'ho ascoltato con molto interesse, purtroppo noi in questo territorio, iniziando dall'istituzione e la politica, e a volte purtroppo non abbiamo avuto dalla nostra nemmeno i medici come ci sono oggi in questa sala, che si sono magari forse prestati per altri. Noi oggi stiamo solo dicendo che su Acerra noi non potremmo avere nemmeno un'azienda che fabbrica fiammiferi per l'impatto ambientale che ricade su Acerra. Su Acerra c'è anche una sentenza per disastro ambientale aggravato per degli ecomafiosi condannati in via definitiva e gli sono stati sequestrati 222 milioni di euro. In questo paese lo Stato, sapete cosa ha fatto? Glieli ha restituiti. Sapete chi si è opposto a quella sentenza? Sapete chi ha detto che quel giudice probabilmente è corrotto? Un manipolo, un gruppo di cittadini. Noi dalla nostra non avevamo nessuno. Noi quando denunciamo sul territorio, e noi denunciamo, caro dottore, purtroppo dobbiamo rischiare le querele. Ci siamo andati a difendere per via di Calabricido quando abbiamo detto che l'amministrazione ma la domanda è la domanda non c'è una domanda, ma ci ho detto l'osservazione è uno allora sforo. Noi purtroppo, caro professore, l'impianto di Acerra non è un impianto salubre, non viene mai classificato con un impianto salubre. I rifiuti che arrivano lì arrivano con TIR che comunque inquinano e impattano notevolmente su Acerra. Ma grazie, mi devo grazie pigliare questo microfono. Chi era il terzo che voleva possibilmente, no, no possibilmente, obbligatoriamente veloce? Chi era? C'era, avevo visto un'altra mano, lui? Non ce la fa a essere veloce? No, lo deve, ci deve essere, guardi. Dobbiamo chiudere, vai. Domanda o anche qui è una... Allora, grazie, sono Giovanni. La domanda per chi è? Giovanni De Laurentiis del comitato No Quarta Linea Cella. La domanda è per chi vorrà rispondere. Vincenzo già ha detto una serie di cose. Il punto è questo: perché parliamo di inceneritore? Perché Tommaso aveva ragione all'inizio nel dire che quella vicenda è stata un grande laboratorio politico. E se siamo stati sconfitti da un punto di vista militare, però tutte quelle ragioni sono state confermate in questi anni e la sentenza CEDU in qualche modo le rende ancora più attuali e verificate. È stato un piacere rivedere il vescovo di Acerra, Monsignor Rinaldi, che obbligava qualcuno di noi a partecipare alle messe, ma poi ci accarezzava citando Marx. Perché anche quello è stato il laboratorio politico di Acerra, anche in questo. Allora, Vincenzo ha bene analizzato gli aspetti negativi. Io ho una cosa da dire. Noi in questi anni ci siamo dovuti opporre all'ipotesi scellerata di realizzare addirittura una quarta linea dell'inceneritore. E questo la dice lunga su come questi impianti, per essere produttivi, devono bruciare sempre di più a discapito della raccolta differenziata, perché non è o così. L'uno o l'altro, o bruciano materiali che hanno grande potere calorifero, non sono produttivi. E in questo percorso, che ha avuto il risultato di far fermare questa ipotesi, siamo venuti a conoscenza del registro tumori dell'ASL Napoli 2 Nord. Devo dire che secondo noi è un lavoro fatto bene, perché va a fotografare l'incidenza comune per comune dell'ASL Napoli 2 Nord. Ebbene, emerge che Acerra, e solo Acerra, ha un'incidenza del 44% in più per gli uomini e del 32% in più per le donne. Parliamo di un tasso standardizzato di 1047. Ora, premesso che abbiamo sicuramente stili di vita un po' tutti non sani, ma è legato anche quello, diciamo così, alle condizioni sociali e ambientali. Però perché Acerra registra questo dato e Casalnuovo, per dire, no, Caivano no, Pomigliano un po' di meno? Perché probabilmente c'è una tipicità che deve essere indagata. E noi pensiamo che l'inceneritore in qualche modo possa centrarci con questa tipicità. Ovviamente non possiamo essere noi cittadini a dirlo, lo devono essere gli scienziati, ma è mai possibile non incominciare un ragionamento sulla dismissione di questo impianto e su un ciclo virtuoso di produzione delle materie di riutilizzo, di riciclaggio e di smaltimento dei rifiuti. Noi siamo rimasti fermi alla battaglia di Acerra. L'impianto è stato messo in funzione nel 2009, dal 2009 ad oggi non è stato costruito un impianto per il trattamento dei rifiuti. Perché? Perché non c'è la volontà, non c'è la volontà politica di immaginare un futuro diverso, e tutto deve essere incentrato sull'inceneritore che produce miliardi per chi lo gestisce. Allora, grazie a Tommaso per questa opportunità. Tommaso è maestro e storia dell'ambientalismo e delle lotte su questo territorio. Noi abbiamo oggi un'opportunità, e quindi diciamo la mia vuole essere anche una sorta di stimolo. La sentenza della Corte Europea dei diritti umani dice una serie di cose. Il primo dato, secondo me, che emerge è che tutti sapevano, tutti. Nessuno ha fatto niente. 8 commissioni parlamentari che si sono posti il tema dell'aumento delle patologie neoplastiche nella Terra dei Fuochi e nessuno è intervenuto. C'è perfino uno studio commissionato dagli Stati Uniti d'America che si preoccupano per i dipendenti che hanno in Regione Campania perché sono esposti alla terra, ai danni della Terra dei Fuochi. Nessuno ha fatto niente. Colpa? Colpa di Antonio. Ok. Altra cosa che però dice è che esattamente lo Stato italiano deve cambiare le normative rispetto allo smaltimento e alla gestione dei rifiuti. E poi terza cosa che fa emergere con forza, ed è quella secondo me la cosa che deve farci riflettere, è che i cittadini vengono ritenuti osservatori terzi, cioè devono essere loro i garanti riconosciuti dallo Stato affinché la sentenza venga realizzata. E allora, detto questo, a noi non tocca fare altro che cercare di organizzarci, lo diceva prima Tommaso. Dobbiamo fare rete, dobbiamo unire, provare ad unire tutti i comitati, i movimenti e le associazioni ambientaliste che in questi anni hanno lottato su questo territorio. E se, e concludo, non ci ascolteranno, e probabilmente non ci ascolteranno, dobbiamo fare quello che sappiamo fare. Dobbiamo tornare nelle strade, dobbiamo occupare le nostre piazze e dobbiamo gridare con forza che la Terra dei Fuochi deve rinascere. abbiamo la possibilità, e per questo noi il 10 maggio ad Acerra organizzeremo una nuova e grande manifestazione alla quale invitiamo a partecipare tutti. Mi dispiace che il sindaco di Acerra sia andato via anzitempo, a breve gli arriverà la richiesta per fare la manifestazione. Grazie per l'attenzione. Rispondo molto rapidamente, visto che praticamente le domande sono, ma io lo sapevo, nel senso che, detto sinceramente, io potevo anche non dirvela questa cosa, lo dico proprio sinceramente, potevo anche farmi i fatti miei, farvi la solita relazioncina e finisce qua. L'inceneritore di Acerra è stato fatto male, nel senso che fare un inceneritore contro i cittadini è chiaro che fa male, ma fa male al territorio in tanti modi che nemmeno vediamo, perché diventa un territorio arrabbiato, diventa un territorio con il quale non si può discutere, diventa semplicemente un territorio contro. Quindi è come ha detto il Vescovo di Acerra, è stato un progetto partito male, in emergenza. Voglio dire una cosa, le emergenze le hanno create le persone che abbiamo eletto, lo dico abbiamo perché anch'io avevo 18 anni. Quindi in qualche modo non è che sono nate da solo, non è che l'emergenza rifiuti c'era in tutta Italia, non è che stava ovunque, c'era su un territorio che aveva deciso che doveva essere gestito, si era deciso, si erano fatte pubbliche elezioni, si erano fatte pubbliche amministrazioni, per tanti anni si era deciso che conveniva fare in quel modo. Dopodiché l'emergenza, in modo probabilmente sbagliato, ma purtroppo in emergenza è anche il gioco sta lì, si è deciso di fare questa cosa. Ripeto, un impianto di termovalorizzazione, di inceneritore, come lo vogliamo chiamare, è un impianto che può essere monitorato, può essere migliorato. Se il filtro del PM10 non le piace e vuole mettere quello del PM2.5, è possibile mettere anche il filtro del PM01. Le dico una cosa, il 90% dell'inquinamento che respiriamo, se vuole sentire la risposta io gliela do, se vuole sentire la sua domanda l'ha già sentita. Allora ascoltatemi, il 90% dell'inquinamento che respirate non è in termini di particolato, non è quello direttamente emesso da una sorgente inquinante. Il 90%, non il 9%, il 90% del particolato atmosferico si produce in atmosfera. Quindi voi emettete qualcosa che particolato non è e diventa particolato. Si chiama aerosol secondario. Si fa l'analisi di questa roba. Il PM10 e il PM2.5, dire che diciamo in un impianto di quel tipo il filtro blocca il 10, passa il 2.5, ripeto, non è molto accurato rispetto a quello che poi è l'impatto e la ricaduta sul territorio dove si produce aerosol secondario. Noi la sappiamo la causa, abbiamo fatto prove, l'inceneritore ovviamente non è a impatto zero, fosse solo per i fumi caldi che emette, non sto dicendo che è a impatto zero, sarei folle a dire una cosa di questo genere. Sto dicendo che però su tutto il territorio, rispetto alle fonti di inquinamento, noi ci hanno cominciato uno studio perché una delle cose che si pensava era che era l'area industriale. Non è l'area industriale, è il traffico e l'inquinamento domestico. E il traffico dei camion. Un'altra cosa, volete sapere perché va ogni anno peggio? Perché ogni anno le vostre macchine diventano più vecchie e non le cambiate, perché siamo poveri. Quindi, va bene, ma ragazzi, ma io ognuno la pensa in una maniera diversa. Io vi porto, noi abbiamo fatto le prove, abbiamo fatto i dati, ci sono degli studi scientifici pubblicati su Pomigliano. Va bene, però... Va bene così. Allora, cioè... Lui sta parlando dal punto di vista di un ingegnere chimico, ovviamente. Miriam ha parlato dal punto di vista di una persona che coltiva la terra. Ciascuno parla, pure il vescovo parla dal proprio punto. Voi non siete d'accordo? Buono, perché questa è la democrazia. Io poi mi faccio solamente, voglio solamente chiudere. Io sono convinto che quando vi dico che le associazioni del cittadino devono essere protagoniste, io ne sono convinto al 100%. Per me una qualsiasi opera, non l'inceneritore, potrebbe essere una qualsiasi opera fatta senza parlare con i cittadini, è un'opera perdente in partenza. Soprattutto oggi nel 2025, forse poteva funzionare 50 anni fa, ma oggi nel 2025 non portare, se io faccio un inceneritore ti devo portare con mano sulla bocca degli scarichi, ti devo portare con mano a vedere se ci credo e sono convinto di quello che sto facendo, non devo avere segreti, devi essere il primo a venire con me lì e i cittadini devono avere la pazienza di seguire anche le istituzioni. Io vi ringrazio, no, vuole chiudere ma proprio velocissimo. Lo volevo dire che quando si è fatto un inceneritore, ricordate le ecoballe? 7 CDR, no? Invece di separare quello da bruciare e quello da riciclare, andava tutto a bruciare, perché c'era, tra l'altro c'era il chip 6, come lo chiamavano, e avevano più soldi. Quando hanno fatto l'inaugurazione, noi, quando abbiamo fatto l'inaugurazione, noi abbiamo fatto un consiglio pastorale, abbiamo mandato ha fatto una dichiarazione in cui dicevamo questo, pagina 59, noi non ci rassegniamo alla routine del quotidiano riconoscimento, cioè noi, il realismo vuole che noi accettiamo l'inceneritore, non ci rassegniamo, e proponevamo un soggetto terzo fatto da scienziati, i quali davano veramente conto temporaneamente, mensilmente, semestralmente, davano conto. Questa cosa non è stata fatta per nulla. E a ottobre siamo andati, tanto per dire che noi abbiamo accettato a ottobre con la FOCSIV, che è un comitato di gruppi di laici cristiani, cattolici, siamo andati là, abbiamo piantumato un olivo, c'erano ragazze di tutto il mondo che hanno portato ognuno una piccola zolla di terreno di tutto il mondo, per dire, e c'erano anche, abbiamo invitato i direttori, i dirigenti, perché si facesse, ma questa cosa non è stata fatta. Vescovo, bene. Io devo chiudere, mi dispiace, grazie. Devo dire anche no, sapete cosa ha scritto nella peste a pagina 200, quando fu fatta la gara partecipò l'Enel, che prese 8 e 6 come qualità dell'impianto, proponendo un progetto di impianto 8 e 6, mentre l'altra ditta, quella che poi ha vinto, prese 4 e 2, soltanto che mancavano c'erano 25 lire al chilogrammo di risparmio. Allora il senatore dice: la salute dei cittadini vale 25 lire e 75 giorni. Grazie. Scusate, grazie a tutti. No, mi dispiace dover chiudere un'assemblea così partecipata con qualche... Dobbiamo rifarla, anche perché le conclusioni che faceva la risposta del professore Sirignano, che hanno acceso il dibattito su Acerra, meritano sicuramente un approfondimento, perché è evidente che il suo ragionamento, che ha un suo rigore scientifico, è un discorso che mostra le difficoltà rispetto a quel territorio. Io penso che i cittadini e quei comitati e noi che all'epoca denunciammo diciamo esattamente questo: quel territorio non poteva avere neanche una goccia in più, perché era il classico caso della bacinella che era già colma e non ci si poteva mettere altro. Però è un'altra discussione, non la vogliamo fare adesso, dobbiamo chiudere. Scusami, Peppe, dobbiamo fare un altro ragionamento. Qui adesso abbiamo un'opportunità. L'Italia è condannata e entro 2 anni deve fare le bonifiche. Se noi non facciamo attenzione e se verranno ancora una volta utilizzati i vecchi sistemi con cui si è gestito il sistema impiantistico in questa regione, e diceva bene Giovanni, perché dopo l'inceneritore si è fermato tutto, tutti gli impianti della filiera intermedia, quelli che devono trattare il recupero di materie, non se ne è fatto neanche uno, tranne qualche privato, neanche uno. Allora se non ci muoviamo Noi perderemo 2 anni e perderemo l'ultima grande opportunità e si continuerà a morire. Noi non a caso abbiamo detto che non vogliamo morire nella terra dei fuochi, non vogliamo che sia una tomba, ma da qui deve rinascere una speranza. E io credo che se riusciamo a mettere insieme la scienza e la passione civile, possiamo farcela. Grazie a tutti i relatori, grazie a Francesca Ghidini. Me ne vado con Antonio. Radio Plaza ha trasmesso La terra dei fuochi, non lasciamo che diventi la nostra tomba, e conclude questa puntata specialissima con un brano, perché non ci basta ciò, ma voglio di più. Questo è il brano di chiusura di Radio Plaza di stasera, Voglio di più, dall'album Nero a metà del 1980, Pino Daniele. La Radio Plaza. Radio Plaza. Io che ho visto terra bruciare, la gente che vi entrava in casa, io che ho visto tutto, ci sono vero. Ed ho visto un uomo e una campana stare insieme a gridare per ore. Ieri ho visto il mare, oggi sono stanco. Voglio di più di quello che vedi, voglio di più di questi anni amari. Sai che non striscerò per farmi valere, vivrò così cercando un senso anche per te. Prestare le mani solo in cambio di un po' di rumore, mentre a sud il caldo t'ammazza e voglia di cambiare, cambiare. Ed ho visto morire bambini nati sotto un accento sbagliato. Ieri mi sono incazzato e oggi sono vero. Ma voglio di più di quello che vedi, voglio di più di questi anni amari. Sai che sfilerò per farmi valere, sarò così sempre pronto a dire no.